sa che entra qualcuno, va. Quindi già entra qualcuno, dai. Ieri non c'era, ieri c'era entrato un anche sul tardi, mi sembra, se non sbaglio. Sì, sì, c'era Tino. Poi stavamo provando alla... quando gli ho passato, mi ha dato dei buoni controlli, dai. C'ero, se no a una certa ora poi mi sono sganciato. Anch'io poi alla fine mi sto alzando presto, la mattina verso le 5 e mezzo, quindi ho mollato. Verso le 11 e mezza, non mi ricordo che ora fosse. No, io verso 8 e mezza, 9, non mi ricordo, non mi lamento. Ah, quindi un po' prima. Hai visto che mi ha dato quelle foto? Mio collega, cioè un mio amico me le ha mandate, e anche collega, anche se non è di queste parti della zona di Macomer, mi sembra, lui. Però questa volta credo che sia ad Alghero, ormai lui sta mancando spesso ad Alghero. Se senti qualcuno, già. Eia, vabbè, io sono un po' fuori dal giro, un po' per i fatti meccio periodo, quindi comunque se capita volentieri, dai, no problem. Beh certo, sempre se capita. Come ho fatto io, vedi, mandi un paio di messaggi agli amici, mi passa parola. Ehi, aspetta, mi rullo una sigaretta. Tanto qua ciamba. Avanti. Ciao Franco, ciao. Come mai sei basso il segnale? Ma ho portato a 5 watt, perché avevo notato che pilotando l'apparino mi andava in saturazione, mi hanno dato dei brutti controlli, quindi ho preferito abbassarlo. Avanti ancora con la buonasera, Giulio. Ok, ho capito, Franco. Ho capito, insomma, hai fatto la regolazione volutamente, ecco, vabbè. Comunque la battaglia è abbastanza chiara, per cui è anche forte, va bene. Ho perso molto di segnale? Sì, da 9,5, 6,8 adesso. Invece così è agganciato? Così è 9,10. Però è sempre pochino, dai, prima forse saliva di più. Dimmi se tu che sei un po' più lontano di Gianni, se la modulazione è accettabile o me la stava un po' rovinando? Ah no, non sta rovinando niente, va benissimo. È per quello, dai, l'ho portato prima, lo stavo pilotando con 10 watt, anche 12. Adesso l'ho portato, vediamo un po', la scala. Sui 5 watt, dai, più o meno. Va benissimo, non fa. 9 più 10 modulati, anche 9 12 modulati, portante fissa 10. No, va bene, poi no, logico, adesso liscio lo perde un po', però almeno uno lo tengo, lascio l'altro, che l'altro esce con una ventina di watt, 20 30 modulati, quello quando lo uso senza niente, invece questo lo uso per fare di ex, magari che ci metti un foglio di carta sotto per salire di segnale. Ok, sì, no, va bene, puoi utilizzarlo così tranquillamente, no, non c'è niente, nessuna inclinazione del radio, va benissimo qua. E allora, cosa mi racconti? È un po' che non ci sentiamo, no? Tutto bene? Diciamo, non proprio, comunque, vabbè, domani mi devo recuperare, perché ho un problemino e dunque, domani sera mi devo recuperare. Sai che un po' dalla voce si sentiva che era un po' abbattuto, dai. Spero che non sia niente di complicato e di risolverla più presto, dai. Sì, ok, speriamo, io comunque staremo a vedere, dai. Ho detto, no, che un po' raffreddato anche se per quello, e dunque sono rauco. Sarà un po' tutto allora, dai. Vediamo un po' di tirarti un po' su. E non sei rientrato Gianni, ho sto ancora fumando questa sigaretta. Ciao Giulio, ben entrato, ben ascoltato, buonasera. Ciao Gianni, ben ascoltato anche a te. Sì, vabbè, comunque. Risolveremo anche questo problema, sopra. No. Sì, vabbè, certo non fa piacere, comunque, diciamo che lo risolveremo, sperando. Se Dio vuole. Vabbè, io te lo auguro di cuore, no? Poi siamo nelle mani del Signore, decide tutto lui. Cosa volevo dire? Gianni, ho visto l'altro giorno la tua antenna, ho visto. Eia. Bella posizione, te l'ho detto, l'avevo già detto. Sì. sì, forse me l'avevi già detto. Oh, l'altro giorno mi sa che sentivi gente da fuori, io qua con la mia neanche li sentivo, e tu sentivi gente straniera. A voglia. Vuol dire che sei abbastanza aperto, eh? Sì, oggi di meno, ma l'altro giorno proprio ce n'era un bel. Ti stavano ammazzando, come dicevi tu. Avanti, giù. Ok, anche io ho visto l'antenna di Gianni. In quell'angolo lì, dove sopra una volta c'era, lui non l'ha conosciuto, dopo una volta lì sotto c'era un rifornitore di benzina. L'hai conosciuto quando c'era il rifornitore di benzina in quell'angolo lì dove abiti tu o Gianni? No, io stavo da tutt'altra parte. Sì, comunque ho visto un paio di foto storiche col distributore della ESO qua sotto. Ok. Nell'angolo della probila. Una volta ti diceva così, dove c'è la probila? Oppure dove sei andato? La probila. Ma non esiste più adesso la probila lì. A voglia. Sono entrato in un sito poco tempo fa, roba di insomma, su vecchie memorie sassaresi e insomma, ho visto un bel po' di belle fotografie e ho visto anche quella. Ok. Allora ho visto anche la fotografia quando c'era la piattaforma lì con le scale, con le panchine, con i muretti, tipo provincia, insomma, con i fari antichi, i lampioni antichi, anche quello avrei visto. Era bellissimo prima, forse c'era anche una fontana, non voglio dirti stupidaggini, mi sembra di averci visto una fontana in quelle fotografie e riproduzioni, insomma. Sì, era molto bella. Avrai una bucaria. Diciamo che hanno rovinato un qualcosa di importante. Per me quello era un monumento di Sassari, era un monumento per Sassari. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Purtroppo abbiamo degli amministratori alle volte che non sanno nemmeno cosa fare, allora rovinano anziché migliorare le cose. Va bene, avanti fra. Cos'era questa probila, Giulio? Un negozio dove si poteva mangiare, comprare da mangiare là. Ma tipo alimentare, dai. Esatto. Lì all'angolo, lì sotto all'angolo, c'era un rifornitore di benzina, ma sto parlando di tantissimi anni fa, ma tanti veramente, oltre 50, insomma io lì mi ricordo di fronte, lì allora c'era questa rotonda, c'erano anche le famose macchine, le giardinette, quelle di legno, no? Eccetera. Allora io ero ragazzo, avrò avuto 15 anni, 14, 15 anni, non di più, e lavoravo lì di fronte ad un bisvecchio del corso, quello il primissimo UPIM, e c'era un negozio di elettricità, no? E dunque arrivavano i lampadari, tutte le cose di vetro, eccetera, e con le casse, con l'imballaggio, eccetera. Noi avevamo un carretto di quelli a mano, da tirare a mano, che aveva anche la ruota, il piede centrale, dunque rimaneva abbastanza messo bene o in orizzontale, no? E mi fa uno che lavorava con me, io che andiamo a portare via la paglia a quell'uomo, dove c'è adesso la stazione dei pullman, lì c'erano, allora c'erano degli orti, c'erano, no? E c'era questo uomo che accettava le casse della paglia e il legname, tutto quello insomma che era imballato, l'accettava dell'orto lì. Siamo andati come? Questo deficiente mi ha fatto sedere, lui pensa che lui era grande, lui l'uomo di una trentina d'anni circa, mi ha fatto sedere nella lambretta, allora lui aveva una di quelle lambrette, una primissima, quella a monopattino, capito? Mi fa siedi dietro e così io con la bretta ti tiro. Ma ammazzo sì che così mi butti giù dalla moto oppure facciamo un anno. No, dai, cammino piano piano. Mi convince, sai, io un ragazzino, 14 anni, 15 anni, non l'ho visto. Vado, mi siedo dietro e siamo scesi tutto lungo il corso, vediamo lì. davanti alla piazza Sant'Antonio, arriviamo lì davanti alla proprietà, poi lui c'era una macchina parcheggiata, c'era lui facendo un cretino che accelerava a colpi, no, per farmi dei dispetti, e rileva, a un certo momento, come mi ha dato un'accelerata, mi scappa il carretto di mano, perché si è puntato il piede centrale, si è puntato per terra, dunque mi ha dato la patta di mano, con il rischio di buttarmi giù anche a me dalla moto. È incominciato a correre questo carretto, la stanga del carretto è andata a finire dentro una giardinetta sfondata, proprio sfondata, e c'era quello del fornitore che aveva visto tutto, aveva visto il giovanotto che lavorava lì, per dirti, no, cosa è da farsi la volta. E gli avete dovuto pagare i danni? Ma io non ho pagato per niente, e lui, questo deficiente, io che ce l'ha, ma la macchina è fasciata, no, non ti preoccupare, lui non è un morato, ho 30 anni aveva. Io siedi, come non ti preoccupare tu, già ci penso io. Poi non so cosa abbia fatto, ma non credo che abbia mai denunciato il sinistro, no, assolutamente. Sono delle cappellate che ci fanno da piccoli ragazzini, ma questo già era una persona abbastanza adulta. Un'altra cosa, scendendo dal corso, no? Arrivi lì in piazza, verso la piazza di, verso il corso Vico, giri a sinistra, ci sono due porte uguali, ma lì cosa c'erano? Dei bagni pubblici, delle porte in legno, non so cosa ci fosse prima, verso le mura, diciamo, attaccate alle mura. Ah, quelle mura vecchie, sì, dove c'era quello degli articoli sardi, quello in quell'edificio lì. Allora, scendendo tu al corso, arrivi alla fine del corso e giri a sinistra per corso Vico, per andare verso la stazione, no? Però tieniti sulla sinistra, tieniti. C'è una specie di parete frontale, ti trovi con due porte in legno, dei portoncini in legno. Uguali, queste due porte uguali. Cosa c'era prima lì? Ma che io mi ricordo c'erano dei bagni lì, qualcosa del genere. Sì, e questo l'angolo lì, io l'angolo, non so se l'hai conosciuto, c'era un negozio, però sempre corso Vittorio Emanuele, no? Appena svoltavi c'erano queste due porte, sì, con le mura vecchie, non so, c'erano dei bagni, così dicevano, poi non lo so, mi con l'esattezza. E lì c'era un negozio, proprio lì, alla fine, proprio di corso Vittorio Emanuele, c'era un negozio di articoli sardi, vendevano tutte cose sarde, tipo questo io, cintole, collanine, tutte queste cose qua, bracciali, eccetera, eccetera, cartoline, il sughero, di ogni genere, tutte queste cose. E come quell'altro che c'è scendendo sulla destra, penso che ci sia ancora quello lì. Non lo so, io sto parlando di quello che era sulla sinistra, praticamente. E dopo c'era anche uno che aggiustava le biciclette, un certo Scano, se mi ricordo, che era questo dietro l'edicola. L'edicola non era dove adesso, era leggermente più su, era sempre lì in quel marciapiede, però leggermente più su, praticamente era a ridosso di via Santa Apollinare. Ho capito, no, io non ho vissuto da piccola Sartre, però ho avuto sempre questa curiosità, queste due porte uguali, ho pensato sempre bagni maschi e femmine, uomini e donne, però non ho mai avuto la conferma da nessuno. Avanti Gianni. Ehi, vabbè, recentemente la palazzina che ci è attaccata alla torre delle mura lì, della porta di Sant'Antonio, lì praticamente vicino a quelle porticine stai dicendo tu, c'era un piccolo negozietto di artigianato sardo, ma ti parlo di svariati anni fa, poi a Serrato. Questa è la memoria più recente. Vabbè, poi qua sotto l'alimentare esiste ancora, è che ormai Paoletto ce l'aveva, l'ultima gestione era di Paoletto, adesso anche lui lo stesso da un po' di anni che quella cosa è chiusa, infatti c'è l'ingresso lì col cancelletto, è tutto pieno di palme vecchie, di monnezza e cose varie. È tutto abbandonato. Ma lì dici dove c'era il circolo? O c'è ancora quel circolo? Non credo, no, l'hanno chiuso. No, praticamente il market risulta prima dell'ingresso dell'anfiteatro ferroviario. O se non ci ho mai fatto caso. C'è un cancelletto, si scendono un paio di gradini e niente, insomma. C'era un market tempo fa. Ah, ho capito, sì, adesso mi ricordo. Già sarà proprio di 10 anni, forse non c'è più, forse anche di più. Forse Giulio si riferiva a quello della provvida. Sì, infatti è quello. Perciò c'era il lavoro ferroviario, dove c'è tutta la piazzetta, eccetera. E con le scale per scendere dentro lì al circolo, scendevo in bicicletta nelle scale, da ragazzo, da ragazzino, 12 anni, 13 anni, 10 anni anche, e scendevo in bicicletta lì, nelle scale, se vuoi immaginare, con il rischio di rompermi il collo, ma comunque non è mai successo niente. E giocavamo lì con gli amici, eccetera. Poi c'erano le carrozze, c'erano lì davanti alla stazione, no, con i cavalli, e dunque era bello, l'unica cosa brutta che c'era è che i cavalli sporcavano e quando a pulire ci passava un po' di tempo, là. Nel senso che magari l'indomani era pulito di nuovo, però durante la giornata se aveva sporcato il cavallo ci rimaneva tutto il giorno, ci rimaneva lo sterco del cavallo. E un'altra volta salendo, allora si saliva anche via Uber, in Cosovico si saliva, adesso si scende solamente, no, con le macchine, si saliva e io con la bicicletta c'era un cavallo, cioè una carrozza che stava salendo e io sono passato di fianco, dai, ragazzino, e ho fatto l'imbecille, gli ho detto, non fai quello di questo cavallo, gli ho detto, no, alla... me ne sono andato con la bicicletta, no? Caspita, hai cominciato a frustare il cavallo, attacca a correre questo cavallo, lo sai che mi stava raggiungendo? Io per fortuna, proprio perché quello magari mi avrebbe dato qualche colpo di frusta, mi avrebbe dato, allora ho deviato e sono entrato in via Gasometro, sono entrato, lì il cavallo non ci poteva entrare, non ci poteva salire. Allora in Cotovico già mi stava raggiungendo, caspita, sembra così, ma il cavallo è veloce. Me lo posso immaginare, il cavallo, vabbè, lì. Adesso bisogna vedere come camminava anche sul basolato, cioè sul lastricato, non certo camminava molto bene, comunque. Si poteva aprire il quattro il cavallo, si era afferrato specialmente. Davvero, oppure i ragazzini si sedevano dietro, nella sbarra di dietro, sulle ruote, e allora i bambini che non riuscivano a sedersi si mettevano a voci, a dove è, come voglio dire, se dietro ci sono i ragazzi e seduti, ecco allora con un fustino che capita, e qualcuno più di un segno gli ha fatto in faccia ai bambini. Anni che furono, negli anni 55-56 anche mi sembra, una cosa del genere, c'era, dove c'è adesso il rifornitore di Corte Santa Maria, c'è su, no? C'è il rifornitore lì, no? Da lì i ciclisti dilettanti di Sassari, tipo Umberto Mura, che è il padrone di Urussini, eccetera, no? Quello che è in Urussini. Ciccino, Flaminio, Cano, tutta questa gente qua, no? Erano tutti ciclisti e bravi, molto bravi, perché allora di sport se ne praticava tanto a Sassari e facevano anche molte corse, eccetera. E salivano lì al fornitore, salivano, si mettevano in linea e c'era quello che dava via, e facevano le volate, scendevano a 70-80 ore, se non anche a 90 ore, fino davanti alla stazione. Quando poi i vigili urbani hanno scoperto che appunto c'erano questi ciclisti la sera, no, non c'era il traffico di oggi non avrebbero potuto fare col traffico delle macchine, ma allora prima la strada era tutta libera. E domani, dopo parecchio tempo che facevano queste volate, un giorno diceva uno, un giorno diceva l'altro, soprattutto quello Umberto Mura, che quello era forte in bicicletta, era uno dei più forti, se non addirittura più forte in Sardegna. E dunque, scendevano così, l'indomani, uno di quei giorni, là, la Nuova Sardegna, rischiano la vita ai ciclisti di Corso Vico. Boh, dall'indomani c'erano i vigili urbani, non hanno più fatto le volate. Certo. già me ne posso immaginare, ragazzi, sto cercando di immaginarmi certe cose, ragazzi. Tutti i ciclisti diventano, secondo me, questa cosa, tutta gente errata, veramente. Era sera si divertiva, ma era la gente che si fermava per guardare, cazzo. Facevamo anche gli applausi, facevamo. Altri tempi erano, beh. Ma non poi di certo non si può fare una cosa del genere, oggi con tutto il traffico delle macchine che c'è. Come si dice, era del camice abitato, era? Beh sì, in un certo senso sì, ci facevano le cose, anche perché lì in Piazza Sant'Antonio c'era questo meccanico di biciclette, le biciclette, no? Scano si chiamava, e dunque facevano riunione lì, tutti i ciclisti la sera, tu volevi svegliare i ciclisti, tardi, bastava andare lì in Piazza Sant'Antonio e c'erano tutti i ciclisti. E dall'altra parte c'era Beniamino, dove c'è adesso l'hotel Giulli, lì c'era Beniamino, un venditore di vino, un vendiolo, come lo vogliamo chiamare, con tutti i banchi, i tavolini per strada, e la gente si sedeva lì a bere, gli uomini anziani, no? E tanti, ma centinaia di persone si fermavano da Beniamino in Porta di Sant'Antonio. E qualcuno quindi trampava davvero ogni tanto lì in bicicletta, anche se è varata? Che in realtà per non è caduto mai nessuno, perlomeno tutte le volte che sono andato lì a vedere non ho visto mai nessuno cadere. E domani dopo che hanno fatto la pista lì dalla stazione, che c'era al centro, c'era l'erba, allora sì, si girava lì, andando con l'anello lì si girava, e qualcuno è caduto anche con la bicicletta. Mi ricordo uno che lavorava con me, un certo Tonino Usai, che poi aveva il negozio in Italia, il negozio di elettrodomestici Usai, quello lavorava con me, anche lui aveva la passione per la bicicletta da corsa, no? E andava lì a fare, dopo pranzo, appena mangiato subito, prima di incominciare a lavorare, di entrare al lavoro, si entrava lì e si facevano le corse, sai, tanti giovanotti, tutti con la bicicletta correndo, anche con le biciclette normali. Io, uno di quelli ero io con la bicicletta normale, ma in genere questi con la bicicletta da corsa naturalmente andavano molto più forte, eccetera. E questo Tonino una volta ha preso una caduta, ragazzi, perché è tutto massacrato, dalla spalla fino alla cabina, è tutto raffiato. Tonino, non Antonio Usai, no, Tonino. Tonino Usai, Antonio è l'altro fratello. E cosa faceva, ti ricordi? L'elettricista faceva Tonino Usai, era da Bonava Rome, dalla Fiorentina. No, questo è Antonio Usai, invece. Vabbè, quello non lo ricordo. Ma quello era più grande anche di Tonino, eh. Il padre è autista di Repulma, di Pani, autista di linea. Questo mi ricordo che suonava nei, come si chiamano, i baronetti, te ne ricordi i baronetti? Sì che me lo ricordo i baronetti, certo, da quello che me ne ricordo, ebbene anche, però non mi ricordo che c'era il fratello di Tonino, la verità, non me lo ricordo. Magari era un altro Antonio Usai questo, era un tipo bassottino, con gli occhiali. No, questo qui era un tipo, sì, non molto alto, sarà stato 1,70 m, una cosa del genere. Ed era anche Marlolino questo qui, il fratello grande di questo Tonino Usai, che Tonino Usai lavorava appunto come stavo dicendo con me, poi che il negozio dove lavoravo aveva fallito, eh? Ognuno ha incominciato a lavorare da altre parti, io in quel periodo poi sono entrato a Pino Mu, a Santa Maria, no, Pino Mura, perché Pino Mura vendeva mobili, vendeva elettrodomestici, frigoriferi di ogni genere, lavatrici, scaldabagni, tutto, lampadari, e io lavoravo lì. Lui poi aveva preso un'altra strada, aveva preso e dopo col tempo, col passare degli anni, si aveva aperto questo negozio in Via d'Italia, proprio sulla destra, non dico in fondo Via d'Italia, ma almeno oltre la metà sì. Mi sembra, me lo ricordo ancora, aveva quell'insegna fatta tutta a cerchietti che col vento cambiava colore. Sì, infatti, e più di uno si ha comprato anche il baracchino da lui, compreso ad esempio Antonello Pompugno ci lavorava lì con lui, e ogni faceva i lavori, tipo, che so io, installazione di antenne, eccetera, eccetera, e poi si lamentava che non lo pagava. Avanti Gianni, ma tu Gianni quanti anni ci sei lì? Se non mi ricordo male dal 90. Ma sei a conto tuo o sei in famiglia? No, c'è la famiglia qua, sono rientrato dai miei genitori adesso per tutta una serie di motivi. No, era solo una curiosità, dai. Importante che tu stia bene poi. Io ho vissuto 21 anni in via Mercato. Quando ci siamo conosciuti noi abitavi via Mercato? Sì, ero ancora lì credo, poi sì, perché poi abbiamo fatto un anno in via Principessa Yolanda, Zenisamo Fuggiti, anche se la casa era molto bella, e poi da via Principessa Yolanda babbo ha trovato casa qua. Oh, già bello! È bello lì, il problema è per le macchine, così per i posti di macchina non ce ne sono lì. Già ci sono, c'è il miele, sembra che sia il miele qua, cazzo. Tutti vogliono parcheggiare qua sotto, cazzo. Mi ricordo a volte quando prendevo il treno la mattina presto, con i fritti perché non trovavo parcheggio per lasciare la macchina. Poi adesso con l'avvento di Sirio, cioè, mamma mia, roba da burotto. Sì, dai. Già, comunque qua sotto è abbastanza tranquillo, non hanno mai rotto le scatole. Ho visto dei movimenti strani, tipo per esempio questi di colore, cosa fanno la mattina presto? Aspettano lì, tu arrivi, loro tolgono la tua macchina e ti fanno entrare a te e magari ti fanno qualche soldino così, capito? Ti tengono il parcheggio. Così mi è sembrato. Non ho visto niente del genere sino adesso. Sì, ci sono dei marocchini che parcheggiano delle macchine loro qua sotto. Ma già sono tranquilli, sono sempre gli stessi. Ho visto che più o meno le macchine le mettono sempre qua sotto. Vabbè, ma è una zona tranquilla, non rompe le balle nessuno qua, per il momento la situazione è abbastanza tranquilla. Sì, a parte i fuochi artificiali l'altra volta quando stava incendiando Sirio. Dimmi, accennami qualcosa. Aveva fiammato qualcosa dal pantografo, erano uscite le scariche allucinanti, ma aveva illuminato a giorno tutta la piazza, né? Forse io non c'ero, non mi ricordo niente di simile. Non c'eri, ma non è successo da tanto, si parla di, non so, 5-6 anni fa, non lo so, così a occhio e croce. Però aveva fatto una bella esplosione, proprio boom, una botta era fiammata. Non c'ero, non mi ricordo. Chissà davvero, adesso si sente nel baracchino come passa e poi si sente dalle vibrazioni. Sono qualche migliaio di watt che di altri non di, di volt, credo che sia prossimo ai 1000, adesso non ricordo. Già mi informo che te lo faccio sapere quanti volt ci passano lì. Avanti Giulio, che io vado a controllare se trovo un video sul telefono, se c'è il video di Sirio che era esploso. Ok, riprendo io allora. Sì, ma è così Gianni, tu quando, non so adesso quanti anni puoi avere tu Gianni, non so se tu hai mai visto le gare che si facevano, si partiva sempre davanti alla chiesa lì, le gare di corsa, di marcia, eccetera eccetera, lì in Corso Trinità, visto che hai abitato lì vicino. Non so adesso quanti anni hai tu, perché adesso è già un bel po' di anni che non ne fanno più di gare in città a causa dell'intenso traffico. Guarda, Giulio, io sono del 65, dicembre del 65. Ne ho viste un po' di cose lì a Sassari Vecchio, ma ti parlo di tempo fa. Siccome lì allora c'era anche la palestra, c'era la società sportiva Alma, che si organizzavano le gare di corsa, di marcia, insomma il purismo in poche parole, no? No, appunto volevo dire, ma forse magari mi avrai visto delle volte anche o in allenamento in quella zona oppure addirittura in corsa la domenica, no, sì, troppo giovane forse per quello che non hai visto un granché, dai, prima c'erano quasi tutte le domeniche, c'erano le corse lì, in quella zona lì. Si partiva dalla parte alla chiesa, si partiva di Corso Trinità e si saliva a Via Lombetto, si faceva il giro di Sassa e si faceva il giro grande, alle volte anche due volte, per un totale di una distanza anche di 20 km quando si faceva per due volte, perché il giro grande era 10 km, ma molto spesso si facevano le corse sia di massa che di accidenti. Vabbè, dai, di podismo in genere. Già ti ho capito. Sì, vi ricordo da piccolo, forse avevo visto qualcosa, sì, fine settimana ogni tanto si vedeva gli enti gurrendi, sia a piedi, mi ricordo anche roba in bicicletta, comunque adesso poi non so se la cosa era circoscritta a Sassari, oppure come si dice, oppure correvano anche fuori. Vabbè, c'era la palestra, mi ricordo della palestra di Pugilato in via Muraglie, mi ricordo, vabbè, poi la palestra che c'era in via Pasqua, lo stesso di Pugilato, vabbè, lo stadio dei Pini, vabbè, allora da ragazzini noi avevamo la nostra greffa, la nostra cerchia, una volta che superavi il Ponte Rosello eri fuori dall'altra zona. Sì, lo stadio dei Pini l'hanno aperto nel 1962, io mi ricordo appunto, io ci ho gareggiato tantissime volte dello stadio dei Pini, e infatti avevo anche sulla distanza dei 3.000 metri, avevo il record, avevo dei 3.000 metri, del tempo. Poi magari l'avranno battuto sicuramente, di marcia, sto parlando di marcia, però le gare poi di marcia 3.000 metri non erano niente, ci facevano minimo 10 km, ci facevano anche 20, per cui no. Sì, 1962, lo stadio di Pini non l'ho aperto in quel periodo, non lo ricordo benissimo, io avevo iniziato a correre nel 1960 e la palestra era in via Porcellana, ma la società Polisportiva Sassarese, che poi nel 62 si era trasferita a Monte Rosello, no, che ancora oggi esiste, però non esiste più l'atletica leggera, c'è solo l'atletica pesante, cioè sollevamento pesi, arti marziali, queste cose qua, che poi adesso è lì dove c'è la cosa, come si chiama, su in alto, via Sano Manzoni in alto, non mi ricordo come si chiama quella zona di Bo. Noi lo chiamavamo la forestale, là. Ho capito. Tanti anni fa. Tantissimi, tanti, veramente. E c'è, avevano proibito il comune, visto l'intenso traffico che poi si era incentivato, e allora non hanno più permesso di fare le corse così in città. E allora si facevano tutte in pista, tutte allo stadio dei Pigli allora, ma sto parlando di tantissimi anni fa, ma tanti veramente, 50 anni fa come baravo. E non è buccia di gioca, come ti si dice? Oh, yeah. Io mi ricordo da bambino, con la buon'anima di mia zia, praticamente le prime volte che sono andato con lei al mare, c'erano ancora i tram della Pani, quelli grigio-verdi. Sì, certo, i vecchi tram, che poi non erano tram, però non sono mai stati, quindi erano filobus, perché non erano tram, noi li chiamiamo tram, ma in realtà non sono tram. Sono dei pullman. Vabbè, comunque è così. a differenza di Cagliari invece che ci sono elettrici anche, ci sono anche così a motore a scoppio o come sono, però ci sono soprattutto, ma da tantissimi anni ci sono i tram elettrici a Cagliari, sì. Sì, sì, a Cagliari sì. Sì, mi ricordo che scendevamo al mare o con Pani, che si saliva da dietro, c'era il bigliettaio, Guru Barretto, aveva la cassettiera dove metteva le monete. O scendevamo all'inizio scendevamo con la Pani, oppure praticamente in Corso Trinità, in Porta Macello, di fronte all'ingresso del mercato della verdura di allora, c'era la fermata della scia e praticamente da lì partiva il pullman diretto che arrivava alla rotonda. Sì, beh certo, sì, ma oggi è tutto diverso, è vero. È vero, intanto erano più piccoli anche, le macchine per portare i passeggeri così erano più piccole di quelle di adesso, adesso sono più lunghe, sono più grandi, un'altra cosa. E prima erano appunto verdi e grigi, se ricordo bene, una cosa del genere, là. Comunque, cioè di due colori sempre. E i tempi sono cambiati tantissimo, che capita, mi ricordo, tratta di... Dopo il ponte, quando ero bambino io era campagna praticamente, dopo il ponte del Rosello, no? Tanto è vero, pensa che quando io ero agli elementari, io avevo frequentato le scuole elementari, le avevo frequentate a San Donato, no? Perché abitavo a Santa Risvecchio, dunque ero lì. E ci avevano portato, cosa avrò avuto io? 8 anni, una cosa del genere avrò avuto. E ci hanno portato lì, via Sorso, diciamo, dai. E però sotto il ponte abbiamo piantato gli alberi, ci hanno fatto piantare noi bambini, tutti contenti, sai, a piantare gli alberi, ragazzi, sai. Poi, chissà quanti anni è che sono marciti quegli alberi lì, perché tutta la scolaresca ci aveva portato, ma non solo una grossa classe, tutto l'istituto della scuola lì, tutti i ragazzi che c'erano di qualsiasi classe, erano tutti lì per piantare gli alberi. E a giorno era una festa per i bambini, allora eravamo bambini, cosa avrà avuto 8 anni, no, per non di più. Sì, immagino, sì, come si faceva spesso, che ogni tanto si riuscivano a fare questo tipo di esperienze qua. No, io praticamente le elementari, allora io sono nato che praticamente i miei abitavano in Viale Dante, all'inizio Viale Dante c'è un portone grande marrone sulla destra, praticamente lì la mia famiglia ci è rimasta 5 anni, praticamente io ho iniziato ad andare a scuola all'elementare a San Giuseppe e quindi di conseguenza mi sono fatto tutte le elementari lì, nonostante poi nel 71, 70, 71, 72 ci eravamo trasferiti in Via Mercato e quindi ho continuato a frequentare elementari, poi ho fatto anche le medie lì e quindi poi vabbè, ho ripetuto la terza media, però l'ho fatta la numero 7. Ho capito, sì, ebbene io ho fatto a San Donato, ho fatto gli elementari, mi sono informato di geometra, però non ho mai fatto l'esame di fatto, non l'ho mai fatto, perché sono stato costretto ad andare a lavorare, perché la mia famiglia, io essendo il più grande di casa, la famiglia mia, mia madre ha avuto 7 figli, ne ha avuto 8 per dire la verità, ma la prima più grande di me era morta, e stavo dicendo, e dunque c'era bisogno di soldi a casa, e io ero il maggiore di tutti i figli, e allora ho cominciato presto a lavorare, molto ma molto presto, facevo scuola, lavoro, casa. casa, o meglio casa, scuola, lavoro, casa, scuola, lavoro, parolieva il mio giornaliero, poi quando ero grande, quando sono diventato grande, il trantano era diventato casa, lavoro, palestra, casa, lavoro, palestra, casa, lavoro, palestra, sempre quello così, anni, anni, anni, anni, tantissimi anni. Ma sì, me l'avevi già raccontato. Vabbè, quando si possono fare le cose si fanno, dopodiché arriva quel momento che bisogna dedicarsi a fare altro. Gianni, in Venerante abitavi con una famiglia Fiori per caso, quella zona lì? Non ho capito, scusa. In quel palazzo in Viale Dante, a destra salendo, c'era una famiglia Fiori? Luigi, Renato, non so se ti ricordi. Ci ho fatto i primi 5-6 anni di vita lì, quindi figurati, non ho questo tipo di memoria così ferrata. Perché ci ha invitato un mio amico lì, Luigi Fiori, guarda, è un tipo enorme, grosso, bel piazzato. Non so cosa dirti, no, non mi ricordo niente del genere. Vabbè, ma sono anni di vederci, dai. Avanti, giù. Portati il cellulare, mica mai ci sentiamo con CB Talk. Vabbè, posso anche fare così, perché no? Stavo dicendo, i vigili urbani li hai conosciuti lì all'ingresso di Viale Latte Gianni? Sì, la caserma... Sì, li ho conosciuti, e avevano praticamente lì all'angolo dove c'è il bar adesso, lì l'ingresso era lì in basso, poi gli uffici erano su in alto. Sì, mi ricordo le 1100, le 1100 bianche e nere, e poi sono venute fuori le 128, addirittura avevano cambiato le 128. E li vedevo tutti, mi è capitato di vedere le macchine lì sotto. Sì, ce l'ho avuto anch'io, il 1100, io ho avuto il 1100, Dick, ce l'ho avuto anch'io, certo. La mia prima macchina in assoluto che avevo, allora avevo 24 anni, avevo comprato il 1100 D, avevo comprato il nuovo, e l'avevo comprato lì in via, come si chiama? In via Giugiastruni, da qui da Ciuru, non so se te lo ricordi, quel venditore che vendeva anche le moto innocenti, la Breta, eccetera, però vendeva anche macchine, qui da Ciuru, dietro il fornitore che c'è lì in via salendo a sinistra. Sì, mi ricordo, me lo ricordo lì il concessionario, me lo ricordo. L'asilo che c'era lì lo stesso all'inizio di Viale Dante, dalla parte opposta ai vigili urbani, lì c'era l'asilo con le suore, credo. Ho capito, sì. Certo. Mentre invece all'angolo con via Armando Diaz c'era la scuola guida dove io avevo preso la patente. Però quando sono andato alla scuola guida sapevo già guidare, sapevo, perché dove lavoravo c'era l'autista della ditta che tutte le sere accompagnava il radiotecnico Ausini, accompagnava. E al ritorno, nonostante che io ero ancora ragazzino, questo deficiente mi faceva guidare la macchina, allora la famosa 600, il primo tipo della 600, che era la macchina del principale, era. E così guidavo io al ritorno, e avevo imparato bene, guidavo benissimo, guidavo. Però poi con passare gli anni, chiaramente sono diventato grande, mi sono comprato la moto, mi sono comprato la prima moto e così via, intanto poi avevo la patente della moto, che ce l'ho anche oggi, e poi dopodiché avevo versato la moto, ma allora avevo già 24 anni, ero già grande, ero già operaio, ti puoi immaginare, intanto nel frattempo avevo cambiato anche le fiere, perché da elettricista ero passato, sono diventato falegname, primo. E poi avevo già 24 anni, mi sono comprato il 1100, il 1100 D. Tu pensa, io andavo in 1100 e fare gli avvenia, e il principale veniva con una moto, il principale era due fatiche, no? E aveva una di quelle lambrette vecchie anche, tra l'altro, e veniva, io il 1100 non in lambretta. Allora, no, ero giovane, no? Non avevo nessun problema di famiglia, non avevo niente, che se ne fregava. Quello che guadagnava, era praticamente per me, per cui mi potevo permettere anche il 1.200. Vai, Franco. Quindi l'hai presa da filo la patente, così, filo era? Altro dello Pino, che poi non sono risolvato, altro dello Pino, per la palestra dove ero io, perché l'altro dello Pino era un pesista, faceva suonare 90 pesi ed era anche molto bravo, e faceva la categoria dei pesi leggeri, faceva, sì, non mi ricordo quanto pesasse, però era molto bravo, molto bravo. Sì, lui era distruttore in teoria era lui, infatti io ero andato più che altro per prendere la patente per la teoria, sono andato, cioè, perché per la guida dovevo fare 24 di guida, invece me ne hanno fatto fare solo 12, me ne hanno fatto fare perché il distruttore di guida mi ha detto: ma tu sei a guidare, che bisogna fare, quasi ci presentiamo all'esame. Mi hanno presentato e sono uscito al primo tentativo, sono stato promosso. Allora l'esame di guida si faceva il via Leandua, si faceva la via dove c'è la torre, se diciamo, là, il stadio della torre. E dove c'è dopo l'acci, dai. E io ho conosciuto l'istruttore, non so se è quello, si chiamava Giovanni Barone, era anche lui, era ex autista di camion, dai. Sì, un tipo un po' tempiato era. Guarda, era un po' robusto, me. Le gambe sottili, però era un po' robusto, con la voce un po' grossa, un omone, dai. Sì, è quello, sì. Un po' leggermente attentiato, una bravissima persona, è gentilissimo, calmo, aveva una pazienza indefinita veramente, era molto, molto in gamba quell'uomo, è un bravissimo istruttore. Però ripeto, io senza nessuna presunzione, ma sapevo già guidare, però io vado alla scuola guida intanto per la teoria, primo, secondo perché voglio essere sicuro e poi mi serviva la macchina per poter fare gli esami, alla scuola guida c'era la macchina, io non avevo la macchina. Dopo che ho preso la patente della macchina sono andato, ho dato in seguito la bretta che avevo, era nuova, ma veramente bella, nuova, perché io la tenevo bene, molto bene. E mi avevo scontato, adesso non mi ricordo la cifra, cioè me l'aveva valutata e avevo comprato il 1.100, un milione e 50.000 lire. Erano soldi prima, cavolo. Sì, anche io l'ho presa con lui la patente, il mio istruttore era proprio lui, Giovanni Barone. Poi si è sposato con la sorella di mia madre, quindi è diventato anche mio zio, dai. Ok, sì. La guida l'avevo fatta nella salita di Viale Trento, l'avevo fatta l'esame di guida. Comunque sono stato promosso al primo tentativo, proprio non ce n'ero, e per cui ripeto, la teoria lo stesso, alla prima esame sono stato promosso, ho preso subito. E adesso mi ritrovo con la patente della moto e della macchina anche, infatti io nella mia patente c'è contrassegnata anche la patente della moto. Vai Gianni. Faccio rilancio Franco, così mi faccio una sigaretta. Stavo per dire Gianni Fuendi. Gianni con un gestone in bocca. Io la chiamo un gestone e la sigaretta. E vabbè, ognuno ha i suoi vizi, perché no? Io non ho mai fumato. Non ho mai fumato, non ho bevuto mai alcolici, per cui, vabbè, dopo tutti gli anni di sforzo che ho praticato, figurati se avrei dovuto fumare, ma se vogliamo. A parte volta che non mi piace proprio il fumo, nella maniera più assoluta, ma nemmeno l'altro, figurati. Acqua sempre. No, io qualcosa già, qualche sigaretta l'ho fumata da qualche anno fa, però 20 anni fa, 30 anni fa. Non ho mai avuto un vizio, mai schiavo della sigaretta, così per spinte con gli amici. E lo stesso, qualche bicchiere di birra, me lo bevo, un buon vino. Certo, non sono un grande bevitore, però un bel bicchiere di vino a me piace, dai. Certo, quando uno si sa regolare va anche bene. Brutto sarebbe quando uno non, non conosce i limiti e si abbruttisce con l'alcol, allora è brutto, ma finché uno beve e si sa controllare va sempre bene, certo. No, no, ma a me perché non mi è mai questo mi è piaciuto, la verità, non ho mai avuto quella passione, diciamo così, per l'alcol e per la sigaretta, nella maniera più assoluta. Va bene, va bene. Purtroppo è così, ma non entra nessun altro stasera, boh, ci lasciamo soli. Non lo so, qualcuno vuole entrare? Nada de nada. Infatti. Oh, qualcuno ascolta che ci sarà, però se non hanno voglia, niente da dire, ognuno è padrone, ci vuole fare come crede, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai. Poi adesso per un po' di giorni mi dovrò assentare e via. E poi se Dio vuole ci facciamo risentire. Certo, noi ti aspettiamo a braccia aperte, come si dice. Ok. Io vi ringrazio, ma comunque va bene così. Vabbè, dai, anche questa fa parte della vita. Purtroppo è così. E grazie per fare. C'è chi sta peggio. Grazie a Dio, meno male, già sto discretamente, però dai, un po' di apprensione c'è sempre, no, è ovvio. Non è che stai andando a farti le figlie. Lo so, anche mio padre qualche cosa l'ha fatta, mia madre, qualche intervento più importante, beh. Però grazie a Dio già ce l'ho ancora con me, dai. Ok, è meglio così. Meglio così, poi quando ci arriviamo a certe età, lo sai come, si incomincia a essere in discesa. E allora gli acciacchi arrivano sempre. Difficilmente uno se la scampa. Gianni, cosa va a trovare questo tizzone? Oh, sigaretta longa, Eccomi, c'era un break sotto, basso, non so se lo sentite. Rilancialo tu. Avanti break. Ciao Lupo Grigio, buonasera, ben ascoltato, 7351 anche a te. E mi sa che io sono Gianni, comunque Lubrofetta, qua la Sassa del Centro Storico, non so se gli amici ti sentono. Voi lo copiate ragazzi? Io no! Chiedi. Franco, tu lo senti? No, anche perché ho molto QRM qua, roba, pompa di calore, quindi se lo senti a silenzio ho proprio zero. Lupo Grigio, mi sa che i due amici qua sul canale non riescono a sentirti, io forse sono l'unico io che riesce ad ascoltarti. Franco, un minuto di pausa. Grazie mille, buona serata e buon proseguimento. Ok, ti saluto anche gli altri. A lui ci senti, a noi? Ciao Eugenio, buonasera. Anda bene. È sparito, non so se ancora l'ascolto. Vieni avanti fra. Oggi non sento neanche Eugenio, ma figurati. Quando nasci? Sento che parla, ma no, mi dispiace. Ho un po' di QRM, c'è un bel QRM. Comunque ti saluto tanto, dai, mi dispiace non sentirti. Avanti Giulio, forse tu lo senti meglio. Giulio si è spostato un attimo. Eugenio, per Franco, Santiago 0 e la radio buona. Io abbassato, aspetta un po'. Ma intanto è utile che lui mi sente, io non lo sento. Senti, vedi se è un po' così, ha migliorato. Fra, adesso gli arrivi Santiago 7. Ma intanto è utile, cioè se non siamo ascolti, è inutile. Capa, Eugenio non ti sente proprio. Antenna, cambia antenna, fatti anche tu una canna da pesca come noi. Eugenio c'è la Mantova fra. Ma quindi c'è anche una antenna buona, allora la colpa è la mia, dai. È la mia che è attaccata a tipo pluviale. Sono ritornato. Capa. Capa, errata corrige fra, c'ha la Energy, la 5 ottavi, la Energy, non la Mantova, quindi correggo. Sempre una buona antenna, dai. Io la Mantova Turbo, se vuoi immaginare, 5 ottavi, e non la sto più usando. E gira, se capita me la prendo anche, tanto cosa me la faccio, tanto ormai non la uso più, mi uso sempre questa, la canna da pesca, così almeno non ho i radiali e non mi disturba la notte col vento eccetera. Tu lo senti Eugenio? Sì Giulio, sicuramente sì che sei a metà strada. Sì, lo sento. Ciao Eugenio. Ecco. Tu hai la energy, ti mi sembra che hai tu in a casa, vero Eugenio? Ok, sì, sì, con la lunga, dai, hai capito. Sì, no, ma già va bene, una bella antenna, dai. Costa poco rispetto alla mantova, però già va bene ugualmente, non c'è problema. Avanti Gianni. Ehi, volevo chiedere all'amico mio Eugenio, il segnale mio stasera quant'è? No, ho trovato, c'era la calza del capo dell'antenna che non era fissato bene, quindi era un po' ballerino, volevo sapere insomma quanto era il segnale oggi. K Roger, perfetto, adesso l'ho bloccato, l'ho saldato ed è... perché prima ogni tanto a seconda di come lo muovevo faceva falso contatto. Bene meda, quindi fra tira su che l'antenna, perché sennò da lì non si esce. Sì, quella parte è proprio, è morta per me. Oh, quella parte, soprattutto quella parte, dai. Eugenio, lei io quando ti arrivo lì a Porto Torres, che non te l'ho mai chiesto, quando arrivo lì da te a Porto Torres, oggi? Ok, sì, va bene, dai. Nonostante che ho l'antenna bassa, magari se la metto alta, la fa anche meglio. Va benissimo, sono contento. Sto usando una un tipo autocostruito, no? Tipo canna da pesca, però è molto bassa, c'è un terrazzino, un metro e venti più o meno di palo, tu immaginati dal pavimento del terrazzino un metro e venti di palo ed è anche costruita dal muri del terrazzo. Mentre prima la volta poi ce l'avevo 6 metri più in alto perché era dall'altra parte della casa e dunque molto più in alto, perché questa è messa davanti, dalla parte davanti della casa, e dunque c'è tutta la piovenza del tetto che l'ho persa, e poi anche il discorso palo, prima c'erano roba di 5 metri di palo e era molto battuto sopra, dalla parte più alta della casa. Che ti puoi immaginare, forse era anche di più di 6 metri, considerando tutto sommato, perché c'era già 5 metri di palo, c'erano, più tutta la piovenza del tetto, minimo 6 metri, forse anche 7 e forse anche qualcosina di più. Se io lo dovessi mettere dove c'era prima la mantova turbo, sicuramente avrò un segnale ancora migliore. Vabbè, comunque mi accontento, non è che mi interessa, non mi è mai interessato a me arrivare forte dappertutto, non me ne frega proprio ben niente, è interessante che mi sentano bene in radio, poi per il resto lascio il tempo che trovo per conto mio. Sì, infatti io neanche quello, non riesco ad arrivare neanche un segnale un po' decente, dai, quella parte lì specialmente. Però cosa ci vuoi fare? Dai, io adesso stacco un po', che esco a comprare un po' qualcosa per cena, per chiudere i negozi. Un abbraccio giù, bocca al lupo per tutto e a risentirci in gran forma, ok? Manda qualche messaggio quando puoi, così magari ci sentiamo su quell'applicazione. Ciao Gianni e ciao anche a come si chiama? A Eugenio da Porto Torres. Avanti Giulio per i saluti. Ok, ciao qua. Grazie a te per tutto, dai. E grazie anche per la chiacchierata di stasera. Avremo modo di risentirci se Dio vuole. Va bene così. Avanti Gianni. Ciao Fra, dai, ci aggiorniamo alle prossime, buon proseguimento e tante cose belle, dai, alla prossima. Eugenio, mi sa che era magnetica che cosa, no? Guarda, quando andiamo sul canalizzato, di solito sul 14, perché dice Antonello Pomponio, cioè Alessio, io lo chiamo Antonello oppure Alessio, per cui va bene così, è sempre lui. Fa sempre sul canale 14 nell'applicazione canalizzata, però di solito c'è anche questo Antonio. Antonio sarebbe Giuseppe Leoncino. Giuseppe, c'è anche lui tante volte, molto spesso. Ma sapete, nei canali nazionali non è che ci vado molto, vado così ascolto qualche volta, ma niente di più. Anche negli canali spagnoli alle volte ascolto così. L'altro giorno ero in ascolto sul canale spagnolo e addirittura sono loro che me l'ho chiamato senza che io entrassi, no. Ma poi sono entrato per salutarlo, per salutare per l'educazione, perché loro hanno visto il puntino, hanno visto sulla Sardegna e allora mi hanno invitato a entrare. Ma io glielo ho detto chiaramente, guarda, io rimango in ascolto perché mi piace sentire il vostro dialetto eccetera, però non capisco molto di quello che dice, per cui no, è bene che io rimanga solo in ascolto e non intervenga parlando. Però diciamo, ho fatto qualche passaggino, li ho salutati tutti e ciccia, mi hanno addirittura ringraziato e io ho ringraziato loro, per cui va bene così. Vai oggi. Dai, se me la piazzo io la Mantova Turbo, cazzo, chi sarà da succedere, ragazzi? Scusa un attimo, già. E come ti fai chiamare tu in Cibitonco? Io sono Giulio Dollaro, sono in Cibitonco. Tu come ti fai chiamare? Ah, ho capito, vabbè. Così almeno quando vedo la rubrica dove ci sono tutti i nomi, vediamo un po', casomai ti faccio una chiamatina se ti vedo che sei attivo, o meglio che sei collegato, dai, anche se non stai parlando, magari entro e ti faccio una chiamata, ok? Ricordatelo, io sono registrato come Giulio Dollaro, come qua, come il baracchino, poche parole. Ok, va bene, sì, d'accordo, già lo so che sei B2 al baracchino, quello già lo sapevo. Bene, avanti, Gianni. B2, non sapevo il tuo nome nativo, va bene, adesso sappiamo qualcosa in più. Io ho un altro sistema operativo nel telefono e quindi quell'applicazione lì non la posso installare. Non so, se non hai il sistema Android non prende, deve avere quel sistema lì, e purtroppo solo con quel sistema funziona il CBTOC. E non con altri sistemi. Vabbè, pazienza. Anzi, stavo pensando anche al PNR, vabbè, comunque, dai, un altro discorso. Tu non hai nemmeno PNR o Gianni, per cui non, anche quello non è possibile. Infatti, lo so, Baracchino è tutta un'altra soddisfazione. Con CBTOC è facile, stai parlando al telefono praticamente, non... Però, ma non mi piace il modo come parlano, ci sono troppe persone che monopolizzano, per cui non va bene, dai. E a noi nella Sardegna ci fanno entrare poco e niente, veramente. Ecco perché dico sul canalizzato invece siamo noi, perché sono a distanza di 30 km, possiamo trasmettere, non oltre non si arriva, ma lì, ripeto, lì ascolti tutto il mondo, sul nazionale, diciamo, o sul mondiale, chiamiamolo così, parli con tutto il mondo, e se per quello ho parlato anche in Argentina, io, Venezuela, eccetera, eccetera, tanti posti, insomma, ma nel primo periodo, poi mi sono reso conto che non ne vale proprio la pena, anche perché ci sono certi discorsi cretini, magari ci sono 30 persone in quel canale, tutti quanti all'ascolto e parlano di 3 o 4 e basta, e poi tra questi 3 o 4 ci sono i deficienti che fanno gli imbecilli, soprattutto quelle donnine tutte stupide, tutti tanti civettone che non so altro, o meglio puttanese, io le chiamo per conto mio, ma che ne dai, c'è una siciliana e una di Napoli, ma che ne dai, vado in equipo tutte e due, non mi va nemmeno di ascoltare, figurati. Va bene, avanti Gianni. A questi livelli siamo, no, non immaginavo, cioè, immaginavo tutt'altro, ma non ho situazioni del genere. Infatti quello fuori stavo il canale, no? Il canale. Allora adesso l'amico sta pensando di mandare queste persone che parlano in una certa maniera, che monopolizzano, e addirittura loro vi staccano il collegamento e non ci possono più entrare, perché tirando un tempo devi dare modo anche agli altri di parlare brevemente, senza stare tre quarti d'ora parlando, perché se ci sono 30 persone su un canale, dimmi tu come si fa a parlare, non è possibile, dai, assolutamente. Dunque, a quanto sembra hanno deciso di dare i tempi, sono finito quei secondi, o meglio quel minuto, per dire, minuto e 20, minuto e 30, non sono deciso, a un certo punto ti staccano. Stanno pensando di fare una cosa del genere, e oggi lo sapete. Okay. E questa gente che monopolizza in TV Talk, no? Che si prende il monopolio assoluto delle trasmissioni, stanno pensando la Midland di prendere provvedimenti, cercando di bannare questa gente qua, e cioè di ridurre i tempi, perché devono parlare tutti quanti, cioè non si possono formare delle ruote magari 30-40 persone in un canale e parlare in 4-5, perché quelli sono i più prepotenti, i più maleducati, per così dire, che fanno sempre loro. Allora stanno pensando di stabilire il tempo di parlata per ognuno, intorno al minuto, al minuto e 30, una cosa così, e poi devi far girare, capito? Perché se tu ti tieni il microfono e te lo tieni un quarto d'ora, dimmi tu come fanno a parlare tutte quelle persone, parlano solo quei 4 o 5 e basta. Lo so, ma costa 119 euro però, quello è il discorso. È un Bluetooth praticamente, se lo so, lo puoi usare sia con barattino, se ce l'hai in macchina, fuori anche a casa, oppure lo puoi usare con l'applicazione di CB Talk. Lo so, però costa 120 euro, oppure non mi interessa a me, in macchina proprio non mi interessa, la verità. E se no mi avrei messo il barattino, ma come mai qui a Sassari non ce l'ha più nessuno, il barattino in macchina, con che parlo? Col muro, sì, tu mi dirai, parli con quelli che sono la stazione di pista, d'accordo, ma non ne vale la pena, poi per il tragitto che faccio io in macchina è breve, non ne vale la pena, nemmeno l'accendono, in caso ce l'avessi avuto anche nella macchina. Prima già ce l'avevo, anni fa ce l'avevo, e voi ce l'ho tenuto tantissimi anni anche, ma adesso non più, adesso sono anni che non... Da quando ho comprato la macchina praticamente 10 anni fa, che ancora tra l'altro è nuova, penso, la mia macchina è una C3 e l'ho comprata 10 anni, adesso a giugno, è appena 40.000 km, ti puoi immaginare, nuova nuova ancora, proprio brillante, è sempre l'unica brillante, per cui non ho mai pensato di bucare la lamiera per mettere l'antenna, ma non ci penso proprio. Vai Gianni! Va bene, dai, in sostanza di CB Talk non è che mi stia perdendo poi così tanto, dai, in sostanza. Vabbè, io comunque, diciamo che preferisco il baracchino classico, dai. Sicuramente il classico, un baracchino è sempre migliore, non ci sono dubbi. Però, diciamo, se il CB Talk, se lo usassimo tutti quanti, noi di Sassari, e zone di Mitrofe a Sassari, allora è come parlare a baracchino in pratica, se vogliamo. Però, ripeto, il baracchino è tutta un'altra soddisfazione, perché il baracchino è un'apparecchiatura che ha lì davanti con tanto di alimentatore, microfono e antenna, mentre invece il CB Talk stai parlando al telefono. Però, ripeto, agli effetti del discorso è né più né meno come parlare al baracchino quando si parla su un canale esatto, cioè in CH canale da 1 a canale 40, ecco, lì va bene, dico, solo per chi, per quelli della zona, a distanza al massimo di 30 km quando mi serve. Ma quale altro? L'altro c'è la vedo per conto mio, non... Sì, delle volte entro quando ci sono persone come si deve, che poi non ce ne vanno essere 7 o 8, più di 7 o 8 di persone, insomma come entro? qualche amico, infatti qualcuno, proprio stamattina mi sono sentito con un amico che anche lui ce l'ha, se l'avevo fatta fare io l'applicazione sul CBTalk, e lui ha chiesto se mi aveva più sentito, e con l'aria ha risposto no, non ho più sentito, evidentemente non può, e così via. Uno del Bresciano, quella zona lì, dai. Vai, Eugenio. Riprendi già. Ha già compreso. Oggi fiacca, non ho... Il signor Otti evidentemente avevano sicuramente qualcos'altro di buono da fare, e quindi magari qualcuno sa c'era, va, cosa ne so, vediamo un po' cosa succede. Infatti, ma si è sentito nemmeno Claudio Bisese? Attento Ronaldo, a Bisese o no? Ronaldo non c'è. Franco di Sosso, ci sei? Non c'è nemmeno Franco. Vabbè, pazienza, vuol dire se ne sono andati in giro, visto che la giornata era bella, è stata fatta la passeggiata. E hanno fatto bene. Riprendi già. Ci sono momenti dove è molto affollato e momenti dove non viene nessuno. E vabbè, dai. Adesso magari anche con il discorso delle giornate che stanno diventando più lunghe, magari la gente è più predisposta a entrare più tardi. Quindi magari qualcuno lo sentiremo dopo. Magari più tardi, ma sono già le 8 meno 6 minuti, meno 7 minuti, per cui siamo già quasi all'ora di chiusura, si può dire. Pazienza, dai. Magari sul 23 ci sarà qualcun altro, non so. Anche questo è un sistema così stupido, ma quando mai non dovremmo stare tutti sullo stesso canale? Avete considerato che siamo quadrati, se invece ci sono le contraddizioni fra persone, e allora ognuno rimane nel suo canale preferito, ma comunque, voi dovete dire, anziché essere amici siamo nemici, in un certo senso, così, tra virgolette, chiaramente, no? Ma è così, no, comunque, sia Mesani che Biggio, vai già. Sì, ma mi è sembrato, poco fa ho provato a girare, ma non ci ho sentito nessuno, sì, ogni tanto mi è capitato di sentire qualcuno, però poco fa ho girato, ma non ho sentito niente. Su 23 si parla Graziano, si parla Gian Maria, si parla Battisio, si parla Torre Squaro, si parla alle volte Marino, poi che ci parla Luca Manicomio, insomma, diciamo con 4-5 persone ogni tanto ci parla, però parlano prevalentemente parlano in PMR, ma PMR è bello perché quando ci riusciamo a sentirci, però tante volte certe persone non riusciamo a sentirle a causa del tipo di frequenza, e dunque non è così piacevole. Sarebbe bene invece se rimanessimo tutti quanti sullo stesso canale, poi o che sia il 10 o che sia il 20 o che sia il 23 o qualsiasi altro canale, non è importante. Interessante che fossimo tutti quanti insieme, e sarebbe una cosa molto ma molto più intelligente. E invece purtroppo, ripeto, le contraddizioni ci sono, e io riconosco tutte queste contraddizioni, sia da una parte che dall'altra, e so benissimo che proprio per motivi banali, tra l'altro, non si possono vedere l'uno con l'altro. E allora ecco che c'è questa divisione nella frequenza. Vabbè, pazienza. Avanti Gianni. E cosa ci vuoi fare? Vabbè, io non ci sono mai entrato, io sono qua, insomma, sono libero e bello, sono amico di tutti, spero. Ancora non ho avuto l'occasione di entrarci, ma quando capita l'occasione, due chiacchiere già, voglio provare a scambiarmele. Certo, ci mancherebbe altro, i canali sono di tutti e sono aperti a tutti, per cui no, problemi no, non ce ne sono, ripeto, però... tempo fa, c'è stata della contraddizione, c'è stata, e sai com'è, e poi io ripeto, se dovessi parlare c'è la togliere degli occhi, perché io ho ascoltato la campana da una parte e la campana dall'altra, per cui so benissimo tutto come la pensa uno e come la pensano gli altri, capito? Per cui però, ripeto, io ho cercato di mettere in pace, ma non sono miei figli, per cui no, a questo punto non mi voglio più interessare, non me la fatti venuta, pertanto va bene così. Siamo entrati e noi no. Io ho deciso di parlare sul 10, quando mi fa comodo entro anche sul 20, perché io non ho problemi con nessuno, per cui va bene, quando mi va a Buddha entro anche in PMR, perché ripeto ancora una volta, non ho problemi con nessuno, sono amico di tutti e tutti sono amici con me, per cui per me va bene così, poi ognuno può stare a fare il suo, peggio per loro. Avanti, io 10, sì. No, ho capito. E c'è, cosa hai detto? K. Appunto, è quello. Io, per conto mio, è una persona poco intelligente. Bisogna lasciare i rancori, bisogna lasciarli e metterli da parte, anche perché siamo tutti uomini grandi. Siamo, non ci sono più bambini, non ci sono. E tutti abbiamo gli stessi diritti e tutti possiamo sbagliare, per cui è anche intelligenza delle persone, quando uno sbaglia lo dobbiamo anche perdonare, perché nella vita non si può vivere con l'assio o nei confronti di nessuno, per cui va bene così, a meno che non sia qualcuno che ha fatto delle cose veramente gravi, ma siccome queste sono tutte banalità, quelle che mi sono state riferite, e io ritengo che è un comportamento da persone poco intelligenti, io la penso così, in questo modo. Poi rispetto tutti, per carità ci mancherebbe altro, e voglio essere rispettato da tutti. E dunque io sono qua, ho scelto di parlare su 10 e rimango sempre su 10. Quando, ripeto, quando mi fa comodo entro anche sul 23, quando mi fa comodo entro anche in PMR, e così via, e così in qualsiasi altro canale, tutto lì o sicuro. Ah beh certo, sicuro. Dai, avanti Gianni, sì. Eccomi, mi sono distratto un attimo, stavo leggendo una cosa al telefono. Vabbè, questo PMR, Giulio, cosa c'hai? Il veicolare PMR o c'hai un portatile per caso? Sì, un portatile, non ho cosa da 30 euro, niente di particolare, però va bene, va molto ma molto bene, per cui tu pensa che sono riuscito ad arrivare anche in Corsica col PMR, tanto per dirtene una, no? Ci sono arrivato diverse volte anche col baracchino, però col PMR, che è difficilissimo, trattandosi di una frequenza così corta, così di onde abbastanza corte, dunque trovandosi un amico di Porto Torres, Sandro, per dire il nome, ex anche lui del baracchino, che adesso non entra più, non ha più voglia di entrarci, per affari suoi chiaramente, non perché è un'ultima persona, ma veramente un'ultima persona, ma io l'apprezzo moltissimo, è veramente un amico, uno dei pochi che per questo ho conosciuto, devo dire che è uno dei più sinceri, anzi è forse il più sincero in assoluto. Vabbè, comunque, senza togliere niente a nessuno, lo stavo dicendo, il PMR, e mi ha sentito in Corsica, lui si trovava in macchina per lavoro, in Corsica, si trovava nella punta più alta della Corsica, adesso non mi ricordo se era Quenza oppure se era Calvi, forse era Calvi però, adesso non me lo ricordo più. Vai Gianni. Ho capito. No, va bene, noi in campagna avevamo comprato perché ci servivano lì, insomma, per tutta una serie di motivi, avevamo comprato le Baofeng su eBay ne avevamo preso 5 in offerta. E mi ricordo, insomma, ogni, sì, l'alare è piccolissima, bella, piccolina, compatta, garantita per 5-6 km, infatti ogni tanto ho voluto fare qualche esperimento, 12 canali ogni baracchino, ogni radiolina, dai, chiamiamo radiolina, palmare, piccolina, e ogni tanto quando capitava che passava qualcuno lì vicino alla corte, sentivo camperisti o roba del genere, non so se Eugenio c'ha qualcosa anche lui di PMR, Eugenio? No, per me il PMR no, non a me non mi piace, voglio, a me piace basso, lo studio basso. Bene veda, bene veda. No, vabbè, ti ripeto, il PMR ha avuto solo la possibilità di usare quelle radioline lì. Ti ripeto, ogni tanto sentivo qualcuno, ma poca, poca roba, poca roba. PMR sono più facile qua con là, le rotte devono stare attenti. Avanti giù. Sì. No, è poco da stare attenti, cioè, no, non è quello il problema. Quindi, il PMR, se uno lo usa come lo deve usare, quando lo usi tu con il suo antennino va bene. Si tratta solamente di avere una posizione buona, come ce l'ho io ad esempio. Io qua a casa ho trovato, così forse per caso, non so, ma ho trovato la posizione dove mi devo mettere per trasmettere in TMR. E te lo dico subito. Intanto devo stare nel piano di su, prima di tutto. E devo essere proprio in quella precisa posizione. Anche spostandomi di un solo metro, allora incomincia a cambiare il discorso. O non mi sento, o mi sentono male, o lo sento io loro. Però se mi metto in quella precisa posizione, ti posso garantire che arrivo dappertutto. Stintino, Cazzo, io ho un amico in barca, l'ho sentito addirittura che era vicino a Castelsardo, anzi vicino, quasi nel porto, il porto di Castelsardo, e ci aveva fatto un giro con la barca, l'ho fatto da vicino alla Dinara, da Tentino, dappertutto, te lo sto dicendo, lo sento benissimo, mi sentiva benissimo, tranquillamente. Da Porto Torres poi non ne parliamo, da Porto Torres è come se ce l'avessi a fianco, qui a me, da vicino a me, quando parlavo con il PMR, e io sentivo benissimo lui, tranquillamente. Adesso Gianni ti mando la fotografia per fatelo vedere qual è un giocattolino quello che ho io, ma questo è un giocattolino, a differenza di altri che hanno la stazione fissa. Ecco, ti mando subito la fotografia, Gianni. K. Oi oi, e beh, c'è chi su Galaxy Turbo ancora innamorato, sì. Sì, mi piace un bel, ma costa troppo. Lo vendere questo qua, lo vendere. No, trova uno che ti volta il baracchino ricchi. Ti volta il baracchino per prenderti il baracchino che vuoi, sapete? Ma dove, qua in Sardegna o fuori? No, fuori. Sì, ci sono diversi rivenditori che fanno questo tipo di... fanno tipo queste promozioni che magari ti ritirano l'apparecchio tra virgolette tuo e loro ti danno insomma quello che cerchi. Sì. Ma non è intenzionale. Capisco, dai, già evidentemente ancora non sei cotto al punto giusto, dai. mi piacerebbe, ma non è il momento adesso. Cioè, va bene anche questo, non è un problema. Che l'ho appunto e mi piace, l'ho venduto a chi ha fatto a me, però vedremo là. Come si evolve, se entra più gente, allora sì. Ok, K. Così che prendo il telefono. Anche a me già non mi dispiacerebbe un baracchino base, proprio come si deve. Ma ti metti 150 euro in tasca e se lo compro. Sto leggendo i messaggi. Sì. e che anche qualche occupi, ci sono molti che hanno il vizio che riusciate a cacciarvi che in mano, allora per staccarlo da farma, lo metto con il preparativo e scacciarvi il cane. Sì sì, ho capito, ho capito. No vabbè, ancora non so che compare di nuda. Se capita l'occasione, al momento debito, come stavi dicendo tu giustamente, ci sono anche altre cose, quindi quando capiterà ci passerà l'occasione sotto il naso, allora vediamo. Sì, perché è l'occasione. Grande, te l'ho mandato. E la gente ti lascia, soprattutto, la dice a me. Claro che sì, claro che sì. Sì, Giulio, l'ho aperta adesso, l'ho vista adesso. Carino, carino, carino. Già si ruba, si è usato su, io dai. Ho toccato dirlo, aspetta, io non uso, mi so che è il Baofeng, GT3, no, GP3, aspetta che lo leggo, allora, la sigla è GT3TP, ripeto, Baofeng GT3TP. Ok, ok. Adesso lo secondo passaggio l'ho capito meglio. Sì, sì, lo stavo vedendo, è piccolo, maneggevole. Sì, sì, di nuova generazione, dai. Ok, è un Baofeng, niente di particolare. C'è anche la radiolina, la radio con la sua frequenza, c'è la torcia elettrica anche, c'è... E poi posso anche ascoltare i radiomotori sui due vetri, perché questo qua da 80, se ricordo, 87,5 MHz sino a 520 MHz, che si può immaginare quanti canali, poi fa anche l'LPD, perché fa il 433 e il 446 MHz. 433 è LPD, il 446 è il PLR, per cui, no, diciamo che è abbastanza completo, si sente molto, ma molto bene, chiaro, ma veramente chiaro, ripeto, dipende naturalmente anche da chi sta a mettere, se uno arriva bene, arriva bene, se poi arriva tutto quanto qua è ramato, uno è chiaro che non lo posso sentire bene, però quello che dicono si capisce chiaramente, tutto bene, bene, bene. Anche se arrivi in basso. Eia, eia. Capito, capito. Vabbè. Altre tecnologie, altre radio e altre cose. Io c'ho, te l'ho fatto vedere la LAN 38, vabbè, invece per CB. Per adesso, come stavo dicendo Eugenio, mi piacerebbe avere una radio base. Insomma, AM, FM, bande laterali, finito, boh. Un bel microfono palmare, serio, amplificato, e se mandelli. Questo è quello che, insomma, che mi piacerebbe mettere a casa. Quindi, personalmente, i miei gusti sono questi. Poi, chiaramente, se il convento nel frattempo passerà altro, già non ci sono problemi. Vero, G? Sì, se ci fosse stato più gente come quando inizia Giulio, io già per gli anni 85-90 e su Sky 12 che era il canale Porto Torres, e c'era una marea di che era bellissima, a Porto Torres, no? Avevamo organizzatissimi, belli. E poi piano piano, con tutte le cose, è andata a sfumare, perché sono stati malumori e tagliati imbecille. Vabbè, comunque, su 12 anni, ma è gente. E c'è proprio la voglia di andare a comprare l'apparato bello, perché c'avevo in macchina, c'avevo a casa, c'avevo dappertutto, era bellissimo. No, va, ci siamo in quattro. 5, ci sono anche io, buonasera. Ciao. Guarda di nuovo il telefono, Gianni, guarda di nuovo il telefono. Ciao Tino, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Tino, è bello, lumentata, troppo produttore se c'era anche la sede, eh. Già sono venuto qualche volta anche lì. Ciao Tino. Ciao Giulio. Ma tu ci sei mai venuto in sede? Sì, oggi ci sono venuto. Sono venuto, vabbè, qualche anno fa, e io parlo forse nel 90. Sì, era quello, perché io ho cominciato a prendere il baracchino 85, del 85, più o meno. E poi alla rinarete era per scalzo di fronte al mare, lo ricordi? Era bella, era due piante, era bella. Sì, non mi ricordo come il nome è proprio, come la chiamavate voi, però sono entrato, sono andato lì. Sono mi sbaglio, ero andato con Claudio. Era veramente bella. Poi ci chiamavano a fare il servizio d'ordine, era una figata. Eia. Allora, quando si faceva la camminata a Sassa del Porto Torres, c'era una cavaliera di Malta, Giovanni Freccia, che faceva la servizio d'ordine e compagnia cantante. E anche noi andavamo così, armati il baracchino, chi col portate, chi in macchina e belle cose. Mi ricordi più che altro, non credo che torneranno, però chi è appassionato credo che una radio ce l'ha sempre da accendere. Poi ci sono quelle che magari per pazzia l'ha venduta e vabbè, ha cercato una nuova tecnologia con il telefono. Peccato però, perché era, non so se il canale 2 c'era Franco, un po' di ieri, era proprio quello. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Adesso stavo cercando di fare una connessione, quando c'è tanto mi devo fare un cacchio, perché esce di testa. Stavo cercando di fare una connessione dal più 5 al Galaxy, ma sinceramente non la giocata e poi i fili sono completamente, è un filo piccolo schermato che ne ha 5 anziché 4, quindi devi stare lì a cercare a fare. Domani mattina ci rimettiamo a lavoro, va. Gioia! Farate ci sei oggi! Gioia! Mamma mia come sto, mamma mia! Sì, Giulio, ho visto la foto? Bello, bello, bello! Forse me l'avevi già fatta vedere, qualcosa del genere. Boh, forse sì, ma forse non l'avevi aperto mai, perché quando avevi il come si dice, il telefono che non era a posto, te l'avevo mandato, ma non so se poi l'avevi visto allora. Sì, probabilmente hai ragione tu, magari me l'avevi mandata, però avevo il telefono incasinato e quindi non ero ancora riuscito a vederla. Vabbè dai, meglio tardi che mai, comunque dai. Adesso Eugenio mi ha detto che sono a 5, ho saldato bene il cavo dell'antenna, quindi lo strumento è collegato, sta tutto andando bene, quindi probabilmente la caduta di segnale era dovuta alla cassa che non era fissata bene. Sicuramente già, sicuramente. Perché adesso lo strumento è attaccato, ti sta arrivando 5, come sempre, quindi lo strumentino non c'ha niente. Tu sei un professore, già lo sai, no? Lu professor. Va bene. Adesso ho cambiato, da quando ho cambiato il mollone del microfono, adesso questo è molto più morbido, più comodo. Prima mi dovevo cazzo piegare perché sennò mi portavo il baracchino appresso. Vabbè dai, avanti ti. Cioè fammi capire cosa cacchio è questo mollone, troppo duro era. No, il suo originale del ZG era molto, molto rigido come capo e niente, quindi ogni tanto provavo a stirarlo. Un giorno che ho provato a stirarlo evidentemente qualcosa si è scollegato e ho visto che anche se era saldato bene dava dei problemi. Poi ho detto va avanti Rubugu, c'avevo un mollone di un altro microfono di un baracchino che funzionava più, questo è molto ma molto molto più morbido, ho preso e ho giambato tutto e adesso è un figurone. Va bene, va bene. Vogliamo qualche accorgimento ogni tanto, ci vuole. Ma di guarda il telefono, Gianni. No, ce l'ho davanti a me oggi, sulla scrivania. Adesso è molto più a portata di mano. Giulio, ma stai innamorando con Gianni, mi mandano messaggini, ma insomma. Allora, sto facendo vedere cosa ho qui davanti nel tavolino. Niente di particolare comunque. Ah, ho capito. Il GT? È il baracchino, là. Ah, ma pensavo il Maupen. No, il baracchino. Cappa, cappa, va bene, va bene. Cos'è che abbiamo parlato in due forse? No, dicevo che questo apparato lo sto usando io, ha anche rotto suo incorporato. Ah sì, anche questo vintage, solo che vabbè, non so già che non ce ne sono funzionali qui, c'è per bellezza. No, anche un tempo di controllo non ce ne sono. Buonasera a tutti. Ciao Franco, andate. Ciao. Ciao Tino, ciao. Posso. Ciao anche a Giulio. Giulio Eugenio. Avanti Giulio. Ciao fra. Ben entrato. Sì. Sì, c'è Eugenio anche, sì. Avanti Eugenio. Ciao, ciao, buonasera. Come sei? Come sei? Tutti sul sink, tutti sul sink. Qui c'è Gianni, guarda che l'ascolti. Gianni. Ciao Franco, buonasera, ben entrato. Ciao Gianni. E oggi arriva più bene Gianni di te. Gianni è una potenza. E allora? Alleluia. Allora Tettino, buonasera. La saluta. Non guarda mai. Però io mi lascio aperto, mi stavo raccontando, però faccio una delle connessioni dei microfoni che ma quando viene voglia la frase, lo sai, no? Bettini e poi mollito qua. E niente, allora ci ho messo a così, a schiacciare il mic. E il piatto. Ma lo sai quante volte mi metto e mollo certe cose, che non ne ho voglia. Ti devi trovare il giorno che proprio ne hai veramente voglia di fare e basta, anche se no non fai nulla, andate giù. Certo, un po' per tutte le cose così, no, se uno la gara non fa niente, è ciccia. E vabbè, che sono le 8.22, diciamo che subito ora della cena. Ancora qualche passaggino e dopo vi abbandono per questioni di cena. Babbo, dai, vai Tino. Sì, adesso mi date un'info se ce l'avete o meno, sempre pagando per carità. Non è che per caso avete qualche sacca di frutto buttata lì da qualche parte che non utilizzate? Io no, non ce l'ho. Sacca di frutto niente. Avanti Gianni Lubrefetta. Io di Pluto conosco solo il cartone animato, vabbè sto scherzando, non ho niente che ti possa aiutare. No, negativo, c'è un gioco da viaggio da mangiare, mi sa che questa è la nuova, per questo è l'originale, ma non mi spiace, cose molto grandi. No, quelle radio lì no, perché il punto dovrebbe essere, a quello che conosco io, il punto dovrebbe essere Galaxy, così è Tino. Ehi, perché cacchio, sto cercando queste da tutte le parti, sono non si riesce, vabbè, adesso tramite qualche amico sono riuscito a trovare tutto tranne la tappa, ma voglio dire, cazzo, non si riescono a trovare i tappi, che dovevo prendere originali, qui ti tocca, non sono messi male qui, per carità, però sai, adesso vediamo cosa fare, se riuscire a denunciarlo o meno. Mi mancava tutti i pomeriggi, sia i grandi che i piccoli. È stato allineato e rifatto originale, niente, l'unica cosa che dovevo fare la mattina, perché ripeto oggi non ne avevo voglia, così, perché sto utilizzando le connessioni del Milan con le connessioni del tutto per la protezione del capo, come tu sai, grazie, abbiamo fatto anche per l'M60, però anziché così il numero ho fatto corto 10 centimetri, giusto soltanto di adoperare questa preparare qua. E niente, manca solo fare l'ulisse e provarla, perché ormai è imminente la cosa. Ehi capo, oh guarda Tino, io una volta che avevo una radio, quella, vabbè, quella me l'ho venduta da tanto, prima di iniziare adesso, tanti anni fa. E la tappa me la sono fatta da una piattina di alluminio comprata lì da Bricco, una piattina larga in alluminio, e me l'avevo fatto da lì. No, la prendo direttamente, quali cose riesco a provare sui B, è perché è particolare, dai, mi serve per metterla come appoggio nel tavolino, così almeno si alza la radio e si sente bene la colonnina, so che mettere sempre un'altra colonnina esterna e se non tappata la colonnina poi non produce come dovrebbe funzionare, dai. Vabbè, già si risolverà, vediamo un pochino. Ho pensato di mettere una unica colonnina a tutte le radio, puoi immaginare. Capo, vabbè, io capo proprio, mi addirittura mi hanno dato 48 e non avevo la tappa. Io sto usando la tappa nel 48 del FM548 16, sto usando, che sono uguali più o meno le cose. Niente, avanti Tino. Giulio, quindi. Ok, beh certo. Cosa hai detto ti di mettere la macchina il baracchino perché per la tappa? No, giù, no, la macchina l'ho staccato, avevo il 48 e l'ho staccato. No, lo voglio mettere qua nella scrivania, così utilizzavo, giusto per non lasciarlo spento e ogni tanto cambio. E poi vabbè, quando c'è propagazione è ideale per andare a giocare nel 45. Ah ok, ho capito, sì. Beh certo, con la tappa sarebbe meglio, cioè riesci a sistemarlo meglio, attaccarlo da qualche parte, così si rimane lì appeso a qualche piano, eccetera. Sarebbe una comodità. E vabbè, hai fatto una specie di mobiletto e ci metti tutto dentro e colleghi tutto e ti fai una stazione tutta bella compatta con tutto quello che hai. E non conosco un falegname, ma a parte. Così poi ci possiamo vantare che ti abbiamo conosciuto e sempre la solita storia, abbiamo capito. È vero, scusa, non avevo capito tutto il discorso che c'è stato dietro. Tu hai l'Uranus, su vero, oggi? Sì, l'Uranus, sintonia continua. Ehi, ce l'ho anch'io, non è Uranus, ma è il 789 della Sommercamp, ma è uguale, non ci sono problemi, parte da 26.000 di frequenza e arriva sino a 32, una cosa così. Sì, è un ottimo apparecchio, un po' complicato da usare con tutta quella tastiera che c'è, se sbagli te devi tornare indietro e devi tornare a capo, insomma è un po' complicato, però funziona molto bene, funziona molto ma molto bene. No, assolutamente, questo qua è della pezza, ma per niente è complicato se sbagli di tornare indietro, assolutamente, perché sotto i numeri c'è il cursore. No, è molto complicato. Sì, facilissimo perché magari tu lo usi tutti i giorni e l'hai studiato bene. L'hai studiato, ormai lo conosci a memoria. Però io che lo uso una volta ogni morte di pappa e mi dimentico come devo fare ed è complicato. Mi viene complicato. Infatti l'ho messo da parte, l'ho messo, conservato e poi di Galaxy già ne ho già un altro, o Galaxy 2, sempre quello, quello già è normalissimo. Va bene, sì, quello sì, tutti i canali, tutta la frequenza ti abbraccia, tutta la 27 tranquillamente, sia in FM anche in banda laterale. Certo, va bene, una buona ricezione e tutto, anche una buona modulazione. Tu pensa che con quel baracchino sono arrivato a Olbia io, all'ingresso di Olbia, c'è un CB. Beh, lo sai che mi hanno sentito a Olbia con quel baracchino lì, per dire, no? Sì, beh certo. Quello ti ha dato Marco, il 5005, CRT 5005, quello ti ha dato. È un Midland, non lo ricordo. Ok, comunque il superstare è buonissimo, va benissimo lo stesso, 3009 è ultimo. No, io ho il 360 FM della Superstar, anche quello, per cui va bene, ma ormai li ho ritirati tutti, in questo tavolino mi ritrovo adesso con questo K, mi ritrovo, poi mi ritrovo con un Cobra di quello vintage, e poi l'altro qual era, aspetta che guardo anche, perché manco mi lamento, pensa un po', ah, il 360 FM, sì. Con quei tre qui davanti, poi prima ne avevo una quarantina, li ho messi tutti da parte, boh, basta, no, non mi interessa più di tanto. Va bene, avanti, Tino. Cos'è quel vintage Cobra? La manifestazione base? No, è di quello tipo a cosa, come si dice, a forma di pianoforte, dai, quello lì è il mi Cobra 100, aspetta che leggo, vediamo un po', facciamo i piccetti, eccoli qua, gli occhiali li ho trovati, mi chino per vedere, allora il Cobra 139, questo qui ha solamente come bande al AM, USB e LSB, niente FM non ne ha. Sì, no, non capito com'è, rimane tipo L, diciamo, dai, no, dovrebbe essere quello, ma non è una fotografia, sono curioso, e poi magari se hai possibilità di attaccarlo, se ce lo fai sentire, è sempre un piacere. Devo staccare l'antenna qua, insomma mi viene un po' male a staccare, un po' laborioso, quello no, però anche perché non è collegato all'alimentatore, eccetera. Sì, la fotografia te la posso mandare, aspetta un attimo che la scatto, che la faccio e poi te la mando. Va bene, avanti Gianni. Sì, con la radio che c'è Giulia l'avevo vista su eBay. L'ho vista anche un paio di giorni fa, mi sembra. Credo che la stiano vendendo in Inghilterra, quella radio lì, se non sbaglio. Poi ho visto la radio valvolare che c'ha Franco di Sassari. Anche quella. Quella che ho visto su eBay era in Italia. Leggermente messa meglio esteticamente di quella di Franco. E poi niente. Io. Avevo trovato su eBay della Polonia, mi pare, o chissà che cazzo di sito era, stavano vendendo una palata come il mio. Il gemello, va bene. Sì, adesso già mi piacerebbe, dai, fare un po' di giri anche in banda laterale, però adesso non è possibile. Prova a guardare la fotografia di questo che sto utilizzando io, questo Lafayette Calzat SSB 140, e guarda il prezzo di quanto lo stiamo prendendo. Io non ci credevo, ho detto, ma sarà. Non l'avrei mai comprato, sinceramente non l'avrei mai comprato. Vabbè, Franco. Ecco, dimmi una cosa, Tino, quanti centimetri è largo il tuo? Questa è una domanda un po' così, osè. Guarda, ne ho una da 20 centimetri. Il doppio. Così poco è finito. Aspetta, aspetta, cosa vuoi sapere? Di larghezza, non di lunghezza, larghezza. Per la tappa, dove la tappa come la metti? Di larghezza, no? Ah, guarda, all'incirca una ventina di centimetri, però la misura esatta non te la posso dare adesso, non metto. Però è più largo del President, tu che ce l'hai. Allora aspetta, giusto perché ce l'ho uno sopra l'altro. Perché sarà 2 centimetri più largo del President. Capo, a te te la manca. Tanto tu ce l'hai il President, se no. Ti è arrivato un messaggio. Il tuo o quello di. Quello di Giulio. Il President ce l'hai. Se è più larga di circa 2 centimetri, è quella. Sì, ci sì, ci sì. Non è l'originale sua, però. Me ne avevano dato due di queste, nuove. E una la sto usando, e una ce l'avevo nel cassetto. Adesso guardate se ce l'avevo ancora. Diciamo che potrebbe andare bene se la misura è quella. Poi cercherò le gallette, già si trova. Sì, vabbè, quelle le devi cercare in confronto al coso della radio. Aspetta che guardo la fotografia di Giulio. Sì, Giulio, la conosco. La conosco proprio, non so come modula, quello è. Volevo sentirlo per quello, perché di queste qua ce ne sono parecchie. Sì, Tino, molto va bene, a voglia. La ricezione non è che sia così molto bella. Sì, si capisce benissimo, però è troppo colposa, così. Però avendo il altoparlante così sul frontalino va bene. No, anche in modulazione va anche molto bene. Adesso non ricordo nemmeno quale microfono usavo, forse l'MB+4, forse. Aspetta un attimino che provo se riesco a fartelo sentire, ma devo collegare tutto, un casino, no, che ne avevo togliere le fuori, hai visto il tavolino stretto, no? Non è che mi viene bene molto. Adesso provo, dai. E trovo anche a battezza. Ciao Eugenio, ciao amico mio, buona serata, buona carica e alla prossima. Buona serata. Buona fine serata, buon inizio per domani mattina. Ciao Marco, Franco. Ciao Eugenio, buon proseguo con tutto, dai, ce la ascoltiamo alle prossime. Ciao Eugenio, alla prossima, dai, ci sentiamo, ciao. Ok, dai, vai Gianni. Forse magari ci siamo sovramodulati, no? L'ho salutato prima, vabbè, lo risaluto di nuovo. Ciao Eugenio, ciao amico mio, alle prossime, dai. A presto. Avrà già chiuso. Sì, vabbè, le gallette credo che siano precise a quelle del Lincoln, infatti ne ho quattro io, quindi due, magari riesco anche a farle andare bene se sono di quel passo lì. Cazzo, vabbè, domani devo salire a Sassari a fare una visita. Come esco dalla visita me la metto in macchina e ti chiamo. Sì, certo, lo facciamo per aspettare. Vabbè, io tanto sono libero, tanto domani mattina devo accompagnare a darmi a scuola. Dopodiché mi devo vedere con Antonio che mi dà una mano a fare la connessione e vuole proprio scappare. Sì, ho provato anche le gallette delle cose e sono partite, sono dello stesso passo. Va bene, dai. Me lo metto in macchina, se capita, come domani devo andare a Sassari, verso le 10. Però prima vado a fare la visita perché se no non faccio in tempo. E poi al limite ti faccio una chiamata, se sei disponibile va bene, se no ci vediamo un altro giorno. Andare, va benissimo. Grazie per il momento. Poi mi faccio sapere cosa ti ho detto. E a mai da me. Pagami i debiti. Vado per il caffè allora. Ah, cosa, cosa. Oh, fa una cosa invece, che tu su WhatsApp c'hai la mia un video della mia stazione, mandala a Gianni. Ah, allora hai giocato male, sai perché? Perché non ho scaricato il telefono che stava parlando e l'ho messo tutto quanto nel CD esterno. Era un casino trovarlo perché ne ho una miriade. Cavolo. Dove ti dire che non esce in palla, ne vai? A chi Gianni poi? A Gianni chi? E lui? C'è lui qua. Sono il profeta, mi pare, Gianni. No, ma non c'è il numero quello di Gianni io. C'era Giulio. Allora dovrei fare così, tu lo mandi a me. Io lo mando a Giulio, Giulio lo mando a lui. Come prima ha dato più a Giulio, c'è il numero di telefono. Sì che ce l'ha, però lasciate sul numero. Dai, autorizza Giulio a comunicarvi il mio numero di cellulare. Ascolta Fra, siccome avevo un problema con la cazza del cavo dell'antenna, mi dai un rapporto segnale? Prova, riprendi che non stavo guardando. Rapporto segnale, guardami il rapporto segnale. Ma sei, guarda, sei modulati quasi 7, ma prima eri più alto il segnale. Prima Gando, a cosa ti riferisci col prima? Vabbè, sono quanti giorni solo che non ti ascolto a te, che non entro io, oggi è ieri che non stavo entrando, sei avanti ieri forse. Scusate, sono io che devo andare, devo scappare, devo fare cosa al volo, quindi non posso più riprendere prima. Vi saluto a tutti. Gianni, se mi dà il numero Giulio, oppure non so, per me è uguale mandarlo a te, mandarlo a Giulio, dal momento che Franco lo manda a me, ovviamente, perché io non ce l'ho. Sarà fatto, sarei accontentato. Va bene, Franco, dai, sentiamo domani e poi conveniamo, dai, ci prendiamo un caffè e parliamo. D'accordo, ciao Giulio, non lo so, anzi aspetta, perché avevo detto a Giulio se mi faceva sentire il cobra, poi invece non so se sta elaborando o quant'altro. Ci sei Giulio? Sì, ci sono, ho appena finito, ho dovuto mettere la batteria nel microfono, non so, sta uscendo? Sì, a voglia. E appunto, è un po' lavorioso qui, infatti, qui anche perché c'è poco spazio, non c'è la batteria nel microfono, non so nemmeno se è abbastanza carica, purtroppo, per cui va bene così, pure il fatto di staccare l'antenna K per metterlo lì, eccetera, eccetera, tutto lì. Come esce? La radio com'è? Vabbè, magari vorrà regolato il microfono, forse è presente, va bene, è forte come radio, hai dei picchi positivi, non so che regolatori ci sarebbero da fare in quell'apparato, perché sì, lo conosco visivamente, non l'ho mai, uno di questi giorni me lo prenderò e lo utilizzerò anche io, lo vedrò poi in stazione, però già va bene. Sì, e vado qui dallo strumento che va bene perché c'è lo strumento di modulazione e qui c'è lo strumento per il segnale, no? Sono due strumenti rotondi, eccetera, eccetera. Sì, vabbè. Io adesso ero mesi e mesi, forse qualche anno che sentavo accenderlo. Penso mi sono dovuto inchinare, attaccare anche i cavi per l'alimentazione perché era tutto staccato, tanto non lo stavo più usando, capito? Va bene, vai, avanti Franco, come mi senti tu? Sì, sei, la modulazione è piena proprio, è bella compatta, è grossa, non è la solita che c'hai tu, normale. Abbassa la televisione Fra, che ci senti per la televisione che tu. Ho detto che la modulazione è molto compressa, bella grossa la modulazione, non è la solita tua. Ho capito, è l'MP4 e ce l'ho in mano, preso poco perché non lo posso nemmeno appoggiare, perché il cavo è corto, dovrei mettere la prolunga del microfono per poterlo utilizzare appoggiato. Adesso lo sto tenendo in mano in quanto quel baracchino è in basso nel piano di sotto, per cui non posso nemmeno metterlo sul piano superiore. Va bene così, ok. Vabbè, sai, perché sì, lo stavi credendo, io ti saluto, ho fatto presente un po' in tempo, prima che tu riuscissi a chiudere, a sentirti appunto che stavi chiudendo, e così mi sono fatto sentire. Vabbè, ci sentiamo, sì, alla prossima. Grazie per la chiacchieratina. Avanti, Gianni, una buona festa. Eia. Anche qua è buono, buono il segnale, la radio vabbè, risulta leggermente un po' amplificata più del solito, vabbè, hai spiegato il motivo, quindi no, non c'è bisogno di dire altro. E niente, comunque va molto bene, va molto bene. Vabbè, riprendo una, la cosa con Franco del segnale. No, siccome avevo la cazzo del cavo dell'antenna che non era. Non era fissata bene e quindi mi sono accorto che muovendo il cavo praticamente avevo dei problemi. Adesso il cavo sono riuscito a bloccarlo, è stato saldato, quindi era giusto per fartelo sapere, capito? Insomma, se avessi notato queste grandi differenze. Beh, ok, per me così, chiudo definitivamente. Grazie Giulio, grazie di avermi fatto ascoltare il Cobra, ero curioso e va bene. Non mancherò anche io a portarla a casa e fare delle modifiche. Rilascio i controlli a Gianni e a Franco, così almeno gli dà la conferma di tutto ciò e va bene. Vi risalvo tutti quanti di nuovo. Nel caso se coincide una mattina faccio delle prove radio, se c'è qualcuno già sul 10. Ok, ci sentiamo, ciao, buona serata a tutti. Vai Franco. Oh, scusa un attimo, Tino, visto che stai vedendo, se ti vuoi interessare, questo qui ha 23 canali solamente, e io gli ho fatto una modifica aggiungendoci una quartiera supplementare e tramite un potenziometro lo stacco e lo metto in una certa posizione e sono riuscito a farlo a 37 canali, a 40 non ci sono riuscito, forse perché ci vuole un quarto diverso, non lo so. So solo che ho fatto questa modifica e sono riuscito, anzi che 23, ne ha 37 questo canale qua, questa roba che ho qua, ok? Beh, interessante. No, a me mi interessa invece, dovrei prendere una gemella di questa, che però questa la modifica delle femme, non saprei neanche dove mettere le mani, quindi dovrò guardare qualche cosa di qua per poi farla nella gemella di questa. Poi lo vedremo più avanti se coincide, se le cose combaciano, magari possono sapere anche un po' di questo. Ok, devo mollare, scusatemi. Ok, ciao ti, anche io chiudo, dai, ci sentiamo. Sono già dopo le 10 circa, per cui devo scendere per la cena. Ci sentiamo. Ciao Franco, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo prossimamente. Ciao Gianni, di Buffetta, Eugenio, se sei ancora d'accordo, e Tino. Ascolto il vostro finalino e dopo di te chiudo. Vai Gianni di Buffetta. Eia, ciao Tino, buona serata, a risentirci, con te Giulio, dai, a risentirci, tante cose buone per quella cosa là, e niente, dai, ci sentiamo presto. Eia, va bene, dai, ciao Tino, di nuovo, ciao anche a te Giulio, ci ascoltiamo per le prossimine, ci ascoltiamo. Giulio, se Gianni riceve quella... il video, mandagli quel video della mia stazione, mandagli se la riceve. Sì, tu vuoi un video del telefono che tu mandi a Gianni e lo devo poi spedire io a te, così. No, negativo. Tu c'hai un mio video della mia stazione. Ah sì, credo di sì, siccome ho cambiato il telefono, non so. Penso che ci sia, non lo so. Se in questo telefono, perché ho dovuto trasferire tutti i numeri, li ho dovuti trasferire sul nuovo telefonino che è del 29 del mese scorso, di aprile, era il mio compleanno, e mia figlia mi ha regalato un nuovo telefonino, no? Non so se anche quello è stato trasferito, però ce l'ho l'altro telefono, ce l'ho mai senza la scheda in questo momento, devo diventare lo scambio della scheda, eccetera, eccetera. Sì, ho capito, se c'è, se intanto mando la fotografia della tua stazione, la mando a Gianni, non ci sono problemi, ok? Capo, dai, se per caso è, se no te la rimando, e tanti auguri allora, eh? Ok, grazie, grazie Fra. Ci sentiamo, fare corsa. Va bene, grazie. Riprendo pure io, chiudo fra un istante. Ok, ciao ciao Giulio, buon proseguo di serata, ben tutto, ce ne ascoltiamo alle prossime. Avanti Gianni. Eia, vabbè, Giulio. Tante cose buone e niente, dai, ci sentiamo presto. Vabbè. Poi volevo chiedere un'altra cosa a Franco, dai. Dimmi, dimmi, tanto se mi sai, siamo rimasti da soli. Ah, ecco, ti stavo dicendo, siccome ho trovato praticamente che la calza del cavo dell'antenna non era perfettamente, non faceva perfettamente contatto, me ne sono accorto stasera, praticamente l'ho bloccato, ho risaldato tutto, ho chiuso il PL l'ho chiuso bene, adesso la calza è perfetta, gli ho fatto la saldatura e niente, era giusto per fartelo sapere, siccome tu mi hai detto che c'è stata una differenza di segnale, volevo sapere se era in meglio o in peggio. Quel giorno scorso ti ascoltavo con un segnale di 7 pieno modulato, adesso invece non arrivi a 7, leggermente sei più giù. Ah, cappa, siccome vabbè ho fatto passare il capo dentro casa in maniera diversa, poi ho tratto questa cosa qua della calza, ho saldato tutto, però poi ho attaccato lo strumentino, l'osmetro e stazionario a posto, tutto il resto a posto, quindi dovrebbe essere tutto normale. Sì, però non ti preoccupare, la radio è sempre la stessa, sempre piena, bella, sempre buona la radio. Non guardiamo il millesimo del segnale, non vale la pena neanche guardarlo quello lì. L'importante è che non diminuisca mai la radio. Capa, no, vabbè, adesso era giusto per levarmi uno scrupolo, non per altro, non è che... Non mi sto preoccupando, era giusto per avere praticamente un referto su questo falso contatto qua dell'antenna, ma adesso ho risolto e quindi anche gli altri mi hanno detto che è tutto nella norma, dai. Capo, no, va bene, va benissimo. Perfetto. Anzi, mi confronto a prima che non arrivava quasi niente. prima non arrivava neanche a 3. Non arrivava. E adesso va bene. Eia, stavo dicendo agli altri, ho detto, se me la metto io la mantova turbo, guai. Se ti metti la mantova turbo qua arrivi più di 9. Arrivi. 9, 9, 5 come gli arrivano gli altri. Vabbè, adesso come Daniele si libera, voglio provare la Ringo, vediamo un po' se quell'antenna lì guadagna qualcosa. Nel caso guadagna, vediamo un po' cosa mi dice Daniele, se va bene la tengo quella. Guarda, da una boomerang a un'antenna deve cambiare per forza, dovrebbe cambiare. Cos'è la la Ringo, cos'è? 5 ottavi mi sembra che era, o quarto d'onda? Boh, non credo che sia 5 ottavi. Non so se sia mezz'onda o un quarto d'onda. Comunque siamo intorno ai quasi 5 metri, eh. Capo. Ah, quasi 5 metri, insomma. Meno della mantova, voilà. Sì, perché non dovrebbe essere una 5 ottavi, comunque dovrebbe essere una mezz'onda o un quarto d'onda. Sì, perché stavo leggendo nel forum che la lunghezza ottimale per funzionare bene quell'antenna deve essere intorno ai 4,30 metri. 4,30 metri. Mi sto accendendo il computer, adesso poi la guardo. Sì, sono entrato sul forum Roger K e poi Marcolino Condor mi ha mandato il link di alcuni post che aveva mandato lui al forum riguardo alla Ringo che aveva piazzato lui tempo fa e i problemi che aveva avuto. E, insomma, secondo alcuni abbastanza preparati, dice dicevano che praticamente risolvevano il problema di quell'antenna non spostando il contatto sulla carica, quella a forma circolare, ma bensì allungando, accorciando la lunghezza del stilo, dello stilo principale. E praticamente per accordarla bene il 27, la misura ottimale era quella intorno ai 4,30 m. 4,30 m, insomma, ma non è male lo stesso, l'importante è che esca bene, che sia, adesso lo vediamo, adesso la guardo a vedere com'è, e quando mi dà il collegamento, eccolo qua, mi dà il collegamento, adesso la guardo a vedere. Giusto per così, per scrupolo, mi piacerebbe fare il confronto. La boomerang che ci vedo è alta 3 metri e qualche spiccio. Sì, 3 metri e 3 metri e 10 se non sbaglio, adesso avanti me lo ammetto, comunque sì, dovrebbe essere 3 metri e 10. Tino, ci sei ancora? Franco? Sì, sì. È un quarto d'onda, non trovo la lunghezza. Ho capito. Un quarto d'onda, sì, allora. Se vai sul forum Roger K, vabbè, anche su Google, scrivi Ringo, taratura Ringo, dovrebbe uscirti la discussione su Roger K. Ciao! Pillo mia, Daniele, buonasera. Buonasera, saluto ai circolari a tutti, oggi sono in ritardo, Va bene, no problem, già non devi timbrare il cartellino, ma attaccato sei. Perché? Perché il mio udito fine lo capisce dalla radio. Quant'è? Fai un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Qua sei qua, oltre i 9,20, praticamente sei quasi a fondo scala, ma siamo anche vicini, Gala, se vuoi possiamo aumentare, No, va bene così, c'è anche troppo, già, chi c'è qua in ruota? Sono entrato e non ho sentito chi c'era. Siamo rimasti io e Franco, gli altri hanno staccato poco fa, c'era Eugenio, Giulio, Tino, insomma, siamo rimasti io e Franco. Sono di nuovo qua, ho fatto, ma devo riscattare Franco, comunque ancora un po' ci sono, ciao. Uè Tino, buonasera. Ciao Daniele. Ciao Franco. E allora? Che si dice da quelle parti? Come si dice? È la stessa cosa degli tuoi, più o meno. Il solito tram tram. E allora? Già va bene, com'è il segnale dalle tue parti, T? Aspetta, lo sto guardando, vai. Guarda un po' e poi lo dice Franco. 1, 2, 3, 4 e 5. Sono verifiche in chiuso, vai, di nuovo. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 9 e 10. E a te, Fra. A me sei in 8. Però devo premettere che questo è molto generoso, Ci attacco l'altro, magari un po' di meno. Vabbè, intorno ai 9, dai, 8 e 9. Un po' dappertutto va bene. Sì, va bene. Lo stai utilizzando ora. Sempre lui, il Jumbo. Il Boeing 747 in partenza. Già va bene. Cava, no, sto facendo una prova, non so neanche quanti watt li sto dando, aspetta un attimo, è stanco. Dovrebbero essere 6 li sto dando. 6 l'ingresso le sta pilotando. Aspetta, faccio una prova. Ovviamente se c'è la portante sto da parlare. Aspetta, così sono staccato però, aspetta. No, tu, staccia un attimino. E poi allora attacca. Staccato. Ok, attacca. poi da 6 a 8 sono 20 dB, ma che parlo con le fighe in chiuso, eh? Quindi metti il caso che se prima arrivavi 9, no, attaccato alle 9 e 20. Va bene, perché so che tiene sino a 10 watt l'ingresso, ma non so poi quanto sia veritiero quello che ho letto. Aspettino, un attimino. Dai, vi saluto tutti che mi è arrivato gente, mi è arrivato. Devo scendere giù. Ci sentiamo o dopo più tardi, o domani. Ciao a tutti, dai, per adesso. Ciao, ciao, buona serata. A domani, ci sentiamo domani. Chiaro come è finito, eh. Ciao Franco, buona serata, dai, a presto. Ciao Fra, buon proseguimento e buon tutto, dai, alle prossime se coincide. Va bene, e qui leggiamo il San Ringo. Non lo so, me lo devi dire tu. Me lo devi dire tu se vogliamo, se sei disponibile a prestarmela per fare questo esperimento. Quello sì, quando vuoi, non c'è problema. Poi ci aggiorniamo domani mattina, dai. Vabbè, però già fammi presente di cosa sta mangiando, perché la cuina è bocca, insomma, così. Ma se vi riferite a me, sto mangiando un biscotto. Visto l'ora, diciamo, anche noi, però un po' ci organizziamo, dai. Ehi, vabbè Daniele, già ci senza premura, cioè con calma e tranquillità, appena se ti è possibile facciamo quell'altra volta, passi di striscia in macchina, mi spieghi due o tre cosette e poi vediamo cosa succede. Cava, cava, il problema lo sai cos'è già, che c'ha quell'antenna, tra virgolette, il problema non è. Mi ha messo la bobina esterna, a posto di passare in mezzo allo filo, diciamo, fare il giro dello filo dell'antenna e attaccare, l'ho messo proprio in cima. E l'antenna dietro, però qua stava funzionando bene, perché se te la metto come deve essere, ti devi appentare a rosmettrartela di nuovo. Beh, ho capito. Vabbè, dai, io se da te l'antenna funzionava in maniera ottimale, non vedo perché mi devo mettere a smontare tutto, quindi viene facile prendere l'antenna così com'è, come l'hai smontata tu, e provare a piazzarla come ce l'avevi piazzata tu. Cava, cava. Piuttosto ti devi, adesso non so se ci riesco io a procurarti le staffette per fissarla, perché mi sa che le ho utilizzate, qualcosa ho utilizzato, forse devo averne due, perché le ho utilizzate per piazzare l'energy. Ma non tieni buoni problemi, già vedo di fare una crocchio io e di sistemarla alla belle meglio, poi già nel caso già insomma sono dettagli che si possono sistemare. Allora, adesso ho staccato il rosmetro, cioè ho attaccato l'antenna diretta all'apparecchio, siccome avevo un problema con la calza, sia Tino che Daniele mi dovete dire se state trovando il mio segnale diverso dal solito oppure è sempre uguale. Guarda, io non è che ti possa dare grandi indicazioni su questo apparato, perché arrivi sempre a 9.10, 9.15, quindi non posso valutare. Te l'avrei dovuto fare da prima di montare, e il rosmetro avrei dato contatto. No, vabbè, adesso così a livello di scrupolo era giusto volevo sapere se avevate notato qualcosa di strano, siccome c'era la calza del cavo dell'antenna che non è sistemata bene, sono saldato e quindi è tutto a posto. Qua è sempre uguale, già va bene. Allora, io non noto differenza né prima né dopo, però mi ricordo che sia tu che Daniele avevate lo stesso segnale, quindi così è rimasto. Bene, Meda, allora il barattolo sta funzionando bene, dai, quindi non mi devo preoccupare. lo strumento suo, lo Smith, sta funzionando bene, quindi non ci sono problemi. Anda bene mela, come dice qualcuno. Ok, di lusso. Ma a proposito, che fine ha fatto Claudio, che sono un po' senza sentirlo? Oh, Claudio credo che sia entrato ieri. Boh, non l'ho sentito. Vabbè, ieri. Ieri non mi ricordo neanche. Oh, ieri sì, abbiamo parlato fino a tardi anche. Sì, ieri ci siamo sentiti con Massimiliano, 8:30, 8 e qualcosa, poi vabbè, ognuno è poi andato a pappare e ciccia. Va bene, ne approfitto ormai, che così anche io vado mi cucino qualcosa, cioè giusto per mettere sotto i denti. Niente, sentiamo domani, se coincide. Buona serata e buon proseguo. Ma riprendi, ciao, perché anche gli avventori cultori che non hanno potuto parlare, Mandrone, ciao. Parroce, Rotti, dai. Buona carica e buon tutto per domani. Ci ascoltiamo alle prossime, se coincide. Riprendi, Gianni. Eia, Marcolino Condor mi ha mandato praticamente il link di un post che aveva fatto su Roger K di quando ha avuto praticamente lui la ringo e mi sono letto tutte le discussioni. I più ferrati, i più competenti parlavano non tanto di toccare praticamente la taratura sul radiale, quello tondo, bensì parlavano sulla taratura in lunghezza. Infatti per farla andare bene in 27, quell'antenna deve essere messa alla lunghezza di 4,30 m. Non mi ricordo già le misure, comunque tu basta che segui i segni che ci sono e non sbagli. Qua c'è uno di stazionari, uno e due esagerando, modulati. Eia, no, vabbè, adesso questa cosa era giusto per dirtela, no? Cioè che praticamente molti di quelli che ci hanno smanettato hanno trovato la soluzione praticamente non accordando praticamente il dipolo, quello circolare, ma giocando sulla lunghezza dello stilo. Praticamente mettendola a 4,30 m, praticamente l'antenna era accordata e dava il massimo. Oh già, io con questi forum, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, non ci do peso più di tanto. Quando tocco con mano ci credo. Anche tu c'hai ragione, no, ma infatti il mio era solamente un riferimento, cioè nel senso ho sentito altre campane oltre alla tua e quindi era giusto per fartelo sapere. Sì, ma volete un po' di forum per curiosità, ma giusto per sapere le misure, la taratura, se c'era qualcosa di più specifico, perché non c'erano neanche istruzioni per iniziare la taratura, dove iniziare a partire. Poi girando ho trovato proprio il libretto delle istruzioni, diciamo, il foglio. E da lì sono partita e l'ho tarata così. E accordavo, ho visto che spostando in variate posizioni aumentavano e diminuivano le stazionarie fino a trovare la posizione ottimale. Eia, bene Meda. Adesso quel problema, tra virgolette, quel problema non si pone più, dato che praticamente tu hai fatto quel tipo di lavoro lì, quindi no, tra virgolette il problema non ce ne dovrebbe essere più. No, io con quella l'ho provata, guarda, pioggia, tutte le situazioni dove tutti hanno detto che la pioggia era il punto debole, eppure con la pioggia le stazionarie erano quasi zero. Tutti invece in quei forum hanno detto che come pioveva le stazionarie aumentavano alle SL e via dicendo. E io invece ho fatto il contrario, non so se è una coincidenza o non lo so come cavolo ha ragionato la gente. Eia, Probabilmente, magari, cioè sicuramente magari la tua non aveva infiltrazioni d'acqua dentro l'antenna come avevano scritto lì sul forum. Io l'ho piazzata così, nuda e cruda, come la vedi, io l'ho piazzata, giusto per fare una prova e togliermi uno sfizio, per vedere cosa succedeva, per fare giusto le prove, capito, prove tecniche, eppure tranquilla, acqua ne ha preso, perché c'è stato quel periodo quando l'ho montata che insomma pure piovendo, non neanche due gocce, ma acqua ne ha fatto. Eia, va bene, dai. Adesso era giusto per scambiare due informazioni così al volo. Niente di che. Va bene, dai. Ui. Gara. Ma c'ho picchi positivi o negativi già da te? Qua tu arrivi, adesso vabbè, praticamente sei all'attacco alle 9:20. Ma i picchi sono positivi? Sì, si rimuove leggermente, sì. Cava, aspetta, vabbè, così. Guarda così, già, cos'è successo? Nuda. Nulla. Sei sempre fermo lì, il lago è sempre fermo lì. Daniele. Allora, aspetta, Allora, così, aspetta. Guarda adesso già, ora la cipolla. Si è spostato ma appena, ma proprio veramente di poco, la radio si è ancora saturata di più. Ah, sta andando in saturazione? Sì, la radio si è sporcata di brutto. Guarda adesso già, com'è? Come tiri su, praticamente la radio perde di qualità. È normale. Guarda, adesso è tornata come prima? Più o meno, adesso non so quanto stai tirando. Ma la radio è buona? Insomma, non come quando sei al minimo, dai. Guarda, adesso? È un po' meglio. Ora. Guarda, adesso? Adesso è aumentata appena, però non è pulita. Aspetta, guarda adesso com'è, tornando 3 watt. Ora. È migliorato tantissimo la radio. E adesso già? Adesso è leggermente peggiorata. Di molto? Il tanto che basta, dai. Forse ne siamo troppo vicini. Guarda adesso già, com'è? Adesso va un po' meglio. Guarda, il passaggio che hai fatto prima, che hai diminuito appena, era perfetto. E adesso con 1 watt, com'è? Adesso è perfetta, 10. Cava, sono 70. Ola, anche se va in negativo. Come tiri su si sporca, capito? Ma ne sto pompando quasi 90, eh. Capisco. Però come inizia a tirare tende a gracchiare, quasi a gracchiare, dai. Vai, saturazione. Poi bisogna vedere in lontananza cosa dice. Infatti, siamo troppo vicini. Linea d'aria sì, già, come puoi dire, a 100 metri di distanza. Quindi non fa testo, dai. Non più di tanto, ma giusto una prova per vedere quanto reggeva. Se entravi prima magari facevi le prove con Eugenio, magari lui ti poteva dare un rapportino migliore. Già va bene, ma intanto visto che è sempre quella è la come si chiama? La portata che manda, capito? Qua sono 70, prima erano, vabbè, erano 90, ma faceva schifo. Sì, aia. Gai S. Gala. Sa che c'era qualche altra parte? Guarda, nessuno c'è. Non ti ho capito. Ho detto, non c'è nessuno nelle altre frequenze, no? Boh, non mi sono spostato. Ah, tu non le senti, non le prendi i colpi? No, la mia è abbastanza tranquilla. Beata a te. Questo non è prendere i colpi, è tutto a prendere. Deboluccio, dai. È deboluccio, sì, curareddo. Olbia, come dice qualcuno. Vabbè, mi sa che adesso faccio QRT anche io, dai. Così stacchiamo, dai. Boh, vabbè, Daniele, dai, ci aggiorniamo in questi giorni e se ti garba, se è possibile farlo, proviamo questa antenna qua, se è fattibile, se no possiamo anche benissimo rimandare. Sì, già, dai, domani ci aggiorniamo e vediamo il da farsi, così te la passo e poi la provi e facciamo le prove. Guarda, facciamone più nemmeno come hai fatto l'altra volta, dal momento in cui magari, cosa ne so, devi uscire a fare altre commissioni, che devi sbrigare altre questioni, ti lavoro in macchina, mi fai uno squillo quando stai arrivando e ciccia, e siamo a posto. Cava, anda bene, dai già, poi domani mattina ci aggiorniamo. Ho una chiamata o anche un messaggio su Telegram, ok? O uno o l'altro, d'accordo? WhatsApp non ce l'hai, no? Sì, WhatsApp sono riuscito a metterlo. E allora ti scrivo anche lì, allora. Bene meda. Ok, dai. Salutoni, Daniele. Io stacco e niente, dai, ci aggiorniamo, ok? Grazie e buona serata. Altrettanto già, figurati, buon proseguimento e ci aggiorniamo per domani, dai. Ok, grazie mille, ciao. Ciao.